sempre per, scritto, per rimandargli la sigla. Ha! Ta! Cosa? Ah, è quella lì la sigla. Ah, ha! Ha! Ah, ha! Benvenuti! Oh, benvenuti in diretta, finalmente! Con il 28esimo episodio della maledizione di Katta. Oh, c'è già chi si sta guardando! Oh mio Dio, Katta Kattabriga ci sta guardando! Ah, sì, beh. Si vede proprio bene. Chi è? Ha! Chi è che sta facendo andare? Io di quella merda! Allora, quella merda! Come potete vedere, oggi siamo in una location diversa. Siamo qui a Botteghino di Zocca, ospiti di Giulio e Marco Bosi, che oggi è con noi e salutiamo. E insieme a me, Andrea Giacomo Vecchio, oltre agli Bosi, abbiamo anche un Gamberoni, Stefano, come sempre, e il Kattabriga, Enrico. E gli altri salutiamo Francesco Arcidiacono e il Lungo De Genti. E vabbè, poi siamo in diretta. E i Lungo De Genti, Luca Lazzarini e Edoardo Salladini, ormai dispersi. E niente. C'è chi non ha la fibra, c'è chi non ha la fibra per giocare, sì, ma solo per LOL. C'è a chi giocare non interessa. no, scusa. Va bene, allora, intanto dobbiamo fare un brindisi con il Porto. Non maggiore. Non maggiore. Anche perché non siamo in Pakistan. Ma salute. Nell'attesa di capire che ruolo avrà Marco oggi. Considerando che è stato aperto 2 anni fa, si è mantenuto abbastanza bene. Veramente qua? Sì. È quello che abbiamo preso a Porto. Ah sì? Molto l'ho aperto 2 anni fa dopo la laurea. Però poi cioè, questo so, in realtà era un invecchiato di 20 anni. Poi ne hanno invecchiati altri 10. Sì, quindi te lo correggiamo. E io quello che avevo preso era buono, però noi sì, mi sa che l'abbiamo già punti finito da boh. L'ho aperto dopo la laurea, allora, cioè qui lo bevo solo io. Tra 15 e 3 ore. Ah, ne vogliamo rivedere, lo vogliamo rivedere. Possiamo applicare uno slow motion? Eccolo. No, c'è la... Che fisico. Tra l'altro, perfetto che la magia non si vede. Vado a pulire e metto la filtra. Ti dava una serie di punteggi per fatti. Ma scusa, fai fare questi. Questi qua, fai quei punti. C'è fatto con... Questa tesa è riempita da... Non è vero, sopra, bravo. Dalla... Ah, questa è la sigla? Non ti piace? Vlad the Impaler versus Dracula di Epic Rappertone. No, ti prego. Ah, quello l'avevo vista, ma non pensavo lo potessi usare. Come... C'è scritto nuova sigla. Sì, solo che... Ah, bisogna fare il riassunto però. Sì. Prego. Ah, no, no, non ho fatto il tempo di riassunto rappato, ovviamente. Riassunto rappato. Io. Vai, Giulio. Lo faccio sempre io. Esatto, perché tu alla fine non lo fai mai. Allora accorciami di più. Vai, vai, vai. Sì, ma è che era babulissimo. Vabbè, ok, come al solito. Fa essere fatto, dai. Oh, fate. È un attimo passare dalle sigle introspettive, rosse, psichedeliche a questo in un attimo. Sei chi? È stato anche quello, sì. 13 versus Pietro. No, vabbè, dai, allora. Però non ho fatto il reparto. Me lo sarei dovuto preparare io, prima. Io, vabbè, io. La prossima ti puoi preparare. La spada retta te la fa. Io. Allora. Dopo essere arrivati all'abbazia, vero? Abbazia. Avevo appena mangiato un pezzo da mia zia. E aver ucciso l'abate dopo che si era trasformato in angelo, aveva giurato di vendicarsi su di noi perché noi avevamo parlato di tutta la sposa. Questo sarebbe verità. Folle. Però folle. Dopo che quel folle nel suo folle piano. Folle della parte, nel suo folle mio. Mio. Probabilmente se l'è presa per la sua follia. Moreno se l'ha scatenato contro tutti i mongrel che c'erano in collo. Noi avevamo fatto una strenua resistenza, ma a un certo punto dopo averne ucciso tipo la metà, visto che ne c'erano ancora 30 e non era che fossimo proprio delle rose, ho detto vabbè scappiamo. Sì, c'è un mongrel. Poi, puoi infilartelo nella maglietta e farlo spuntare. Dopo aver ucciso metà dei mongrel, decidiamo di scappare. Però scopriamo che il piano del nostro druido non si poteva fare. No, il piano del nostro druido di evocare delle aquile, lui che si trasformava in un'aquila a scappare, non si poteva fare perché lui non si poteva trasformare. Okay. No, perché lui non c'era, se c'era si poteva fare, credimi. Vero? Master confermo. Vabbè, riusciamo comunque a scappare, arriviamo al villaggio dove Vardestran si proclama nel dire fuggite! Sciocchi a tutti i cittadini rimasti del paesino. Pezzi di solvenza. Dissolvenza del paesino. C'è preso la telecamera lì. Troppo meno. Come si chiama? Krez. E gli abitanti però non capiscono, nonostante siano stati tipo massacrati il giorno prima, non capiscono che quando uno gli dice scappate perché stanno per tornare le bestie, e niente, il problema è che fuori c'è. E iniziano a lamentarsi che moriremo anche fuori. Allora morite dentro. Allora il paladino sclera e inizia a dire sì, morirete tutti allora. A quel punto un vecchio salta su e fa è colpa nostra e quindi a questo punto voi avete detto sì, colpa nostra. A questo punto ma non è vero. A questo punto niente. No, in realtà no, è l'abate che è un po'. Io mi sono avvicinato. Io mi sono avvicinato al vecchio e l'ho squartato. Sì. E poi, mentre una parte dei popolani ci lanciavano delle asce che erano spuntate improvvisamente. Ci lanciavano delle aquile, ecco dove erano. E io ho preso una torcia e ho dato fuoco a una casa. Su suggerimento del barbaro. Sì, in realtà i popolari erano il suggerimento del barbaro. Perché è stato il barbaro che ha detto perché non mi dai? Come magari era scemo, però che diceva perché mi dai fuoco? Quando io stavo solo per io avevo detto all'inizio, no, io faccio il percorso per uccidere più popolari possibile, ma andando verso l'uscita. E mi è arrivata una voce che fa: ma perché non dai fuoco a una casa? Allora io ho detto: no, Catta, posso cambiare azione? No. Da fuoco, ma c'è. Io credo di aver detto una cosa del tipo: ci manca solo che dai fuoco a tutto. Quindi no. A lui è arrivato: ma perché non dai fuoco a tutto? Mi senti una voce che diceva: perché non dai fuoco a tutto? Uguale. E quindi ho iniziato a dar fuoco a casa. Quindi anche l'altra metà dei popolani se ne è avuta male. E ha iniziato a lanciarsi. Che permalosi. Poi abbiamo scoperto che il master li aveva un attimo buffati, che non c'erano più due in forza, né alla destrezza, Vi mancavano sempre. No, però il mio cavallo sarebbe sopravvissuto e non sarei rimasto in mezzo al villaggio. Però alla fine siamo scappati e quindi adesso siamo fuori dal villaggio e dobbiamo rincontrarci con gli altri. Esatto. Perché siamo arrivati già al video del film, dove dobbiamo aspettare Kevin, Esmeralda e Ciccio Vecchio che erano andati sì, Victor. Io dico Victor perché io sbaglio carne da nome cannone. Con cosa? Carne Rudolf Van Richten, scusa, ma siamo sicuri di fare sessione con due bossi? Non è pericoloso? Magari si compensa. Mi pare giusto. Commento alla cosa di in realtà non ho mai visto Marco giocare, non so. Cos'è il commento? Mi pare giusto, alla tua foto. Ma chi? Las, aspetta, si scrivo. Bene. Guardaci in diretta maiale. Abbiamo fatto il riassunto. Grande Giulio! Vi siete messi è molto veloce fare i riassunti, perché quando ormai sei diventato non è successo molto, abbiamo solo ucciso dei popoli. Il riassunto sei diventato bravissimo Giulio. Vabbè, in realtà è stato quasi solo combattimento la volta scorsa, sì. Non è successo non minimizzare Giulio. No. Guarda che io di solito faccio i riassunti a mio punto di vista. Esatto, è stato anche quasi obiettivo. Ha detto il mio personaggio si è comparato come un pazzo come solito. No, però lì in realtà ci stava Giulio, perché aveva rotto il cazzo. Dai, Catta, Quindi avevamo tirato dei dadi al... È vero, ha ragione. Sì, e inspiegabilmente non vi è successo nulla di... Perché dovevi andare a dormire. Esatto. Non farò riposo lungo. Perché inspiegabilmente? Non è successo niente. Perché passare molto tempo nelle zone selvagge aumenta le probabilità di fare dei pessimi incontri. Ma io ho una testa da sciacallo e le branche, quindi siete già in compagnia di un pessimo incontro. Cioè, se non bastava quello che comunque... Comunque, mi ero dimenticato di dire che è passato di fatturando da quando abbiamo iniziato la maledizione di Katta. È iniziata con una specie di Halloween. Esatto, siamo qua al 23° episodio. Una specie di ogni santo. E tra l'altro, piccola informazione di servizio... siamo al pari con i podcast e gli articoli di Colodi, per cui se volete andarveli a vedere e rivedere potete farlo. Ho anche creato, ma devo implementare una piccola pagina di Colodi sulla storia, ma è poca roba. L'idea è farla anche per la maledizione di Katta eventualmente, ma prima sistemiamo gli articoli eccetera. E intanto già sul podcast ci sono, dopo solo un anno, e i primi due episodi dello special. Detto questo perché invece è stato in vacanza. E perché è stato male in realtà, perché in vacanza sono andato via. Però sì. E quindi l'obiettivo adesso è portarci anche in pari col podcast. Era ho buone sensazioni in questo senso. E niente, possiamo perché sa che starà di nuovo. Perché sto male spesso, quindi c'è anche bisogno di follower se vogliamo. E poi soprattutto abbiamo un grande progetto che di cui l'idea mi è stata data più o meno 3 minuti fa, e che è quella di provare a vedere questo level up, che non so cosa sia, però ci vogliono almeno 100 follower, quindi follower di Tycoons & Dragons. Follow me! Chiedete ai vostri follower di followarci ai vostri parenti per quella che è la proprietà. Vota e fai votare Tycoons & Dragons. Sì. Transitate i vostri follower su di lui. Salute. Grazie. Molto bene. Urlo di seguiteci. Tutti insieme. Rifatto il reclamo. Sto lavorando per voi. Il reclamo, cosa vuol dire? Ryanair. Ok, avevamo detto che era passata un'oretta, quindi potevate beneficiare del riposo breve. Quando avete visto arrivare verso di voi il carretto di Van Richten e il trainato da lui e il guidato da lui e Smeralda. Trainato da lui? No, i cavalli. I cavalli sono persone. E se vedi poi ci vedono i cavalli sopra, tipo le fa, che cazzo sto facendo? E Casimir. Più, a quanto pare, un altro individuo che non avete mai visto. Che ancora sta decidendo. Che non sapete che faccia. Che ancora non è ancora pixelato. Esatto. Come quando non hai ancora sboccato un personaggio nei videogiochi che mi è nero, esatto. No, è un'ombra, è ancora assieme alla nebbia di guerra. E quindi vi ricongiungete e lui vi squadra abbastanza preoccupato vedendovi un po' pesti e malconci, e oltre a insomma offrirvi le sue cure se ne avete bisogno. Vi dice: sono stato maledetto. Questa maledizione potrebbe essere una cosa interessante da dire. E vi dice preoccupato: che cosa è successo a Kretzke? State bene? Quando vedi un piccione. Kretzke è finita. Questa è una pessima notizia. Che cosa è successo? Esatto. No, di nuovo. L'abate della sua follia. Questo piace sempre, è un grande classico. L'abate della sua follia ha rilasciato i mongrel sulla città, che hanno fatto a pezzi tutti gli abitanti, che anche loro erano un po' folli a quanto pare. Abbiamo provato a fargli ragionare. No, il mongrel ha parlato fuoco. Abbiamo provato a mettere fuori gioco i mongrel e l'abate. L'abate ce l'abbiamo fatta, una buona parte dei mongrel pure, ma non tutti. Siamo dovuti fuggire. E abbiamo provato a avvisare la popolazione, ma a quanto pare preferiscono rimanere lì a farsi mangiare che provare a fuggire fuori. Quindi possiamo considerare la città ormai un cumulo di macerie. E il fuoco non è colpa nostra. Folle! E si vedi un folle cumulo di macerie. Questa è una notizia terribile. Speravo di trovare un posto sicuro dentro quelle mura. E non hanno neanche voluto questo vino che ci eravamo dimenticati di avere. Esatto. Evviva. Beh, potrebbe essere sicuro ora che non ci sono più abitanti e persone. No, allora volendo possiamo provare a rimetterci il sesto e provare una nuova spedizione per sanare definitivamente Cresc. Solo che non so quanto. Cioè, in teoria vagano liberi e cioè a me non è che entra però. Non lo so, secondo me possiamo semplicemente andare sulla nostra strada, cioè non possiamo avete scoperto riguardo alle informazioni che ci avevano dato i guardiani delle piume che cosa si è successo la scorsa notte? Praticamente a quanto pare Strad è arrivato in città. Il folle piano dell'abate ha avuto purtroppo l'esito che si immaginava. L'abate ha provato a rifilargli una specie di creatura spacciandola per il ricordo della sua amata. Il golem di carne con le sembianze di Rina. E lui e Strada, a quanto pare, l'ha presa benissimo e anche ha dato praticamente via alla mattanza dei mongrel facendoli impazzire. E l'abate poi ovviamente nella sua follia ha detto che era colpa nostra, ma diciamo che per quanto possiamo magari aver commesso degli errori in passato, in questo caso è semplicemente il nostro errore, forse è stato quello di non ucciderlo prima. Sì. Che è 17:33. Che c'è? Cosa c'è? Prevedo il futuro. Voi invece quale nuove da Vallacchi sono stati loro? Loro dovevano andare a controllare. Ah, giusto. Quali nuove da parte vostra invece? Noi ci siamo provati ad avvicinare il più possibile. E siamo arrivati in vista della torre e abbiamo visto che l'impalcatura è crollata. Non siamo riusciti ad avvicinarci di più perché abbiamo sentito nel boschi circondanti gli ululati di diversi gruppi di bestie, lupi. Quindi la torre è sotto assedio in questo momento. In realtà non si vedono intorno alla torre delle creature, si nota solo le macerie di legno che sono crollate. La torre c'è, però di fianco alla torre c'era l'impalcatura dalla quale siamo saliti. Dire che qualcuno ha provato. Non siete saliti per presentarvi alla porta principale. Ok, io non lo so e quindi chiedo, ma. Sto giocando, posso chiamare poi. Cioè, ci sono già. Può darsi che questa notte ci sia stata una qualche collocazione. Visto che non lo so, chiedo, ma scusate, in questa torre è dove avete rinchiuso Irina? No, piano! Io non lo so. Sì, esatto. Parlate adesso di una torre, parlavate di andare a vedere. Quindi chiederai ma cosa c'è di così prezioso in questa torre? Ma è la domanda fatta bene. Mi avete parlato di un luogo segreto dove avete nascosto Irina. Mi continuate a parlare di questa torre, faccio uno più uno. Vabbè, 3, 4, 5 volte che parlate di questa torre e parlate di Irina. Va bene. È logico. Allora, è tempo che voi lo sappiate, ma sì, è lì che Irina è stata. È stata nascosta. Tu non puoi, metagame. Che diciamo che è lì che diciamo Irina è stata nascosta, anche perché è un luogo che è inerte alla magia, e quindi c'era la possibilità che Strahd lì non riuscisse a vederla. Ora bisognerebbe capire se invece in qualche modo comunque lui è entrato a conoscenza e quindi questi lupi sono lì. Beh, sì, tecnicamente se immagino, come ci aveva detto un generale, ne avevamo parlato, lui però vede e sa cosa facciamo noi, perché siamo in sua compagnia. Sì, però non c'eravate voi quando l'abbiamo nascosto. Sì, però adesso tu lo stai dicendo davanti a lui. Cioè, non so cosa capisce Strahd di quello che sente lui. No, lui vede, però sente. Teoria no. Cioè, non dovremmo stare zitti e non dire dove è Irina. Perché teoria lui ha dei collegamenti, però non... non credo che sente tutto quello che ci diciamo. Dovrei andarmi a vedere come funziona quell'incantesimo. Cioè, però magari non lo sta facendo in questo momento. Esatto, c'è da dire quello, certo. E poi, non essendo voi, insomma, esattamente esperti di magia, potete solo supporre cose, non avete la certezza. Boh, io da quel che avevo capito, diciamo, poteva vedere eventualmente, eccetera. Quindi non penso che possa... Poteva rintracciare, quindi non avevo capito. Esatto. Ah, okay. Quindi non c'era, eccetera. Però bisogna capire perché questi lupi sono lì, cioè questi vanno eliminati da lì. E più che altro se è venuta giù l'impalcatura è o perché qualcuno l'ha utilizzata oppure ha provato a utilizzarla. Oppure il vento forte, magari. Però ci sono dei lupi. Per un terremoto, si può dirlo. Voi non avete visto cadaveri? No, in zona sismica? No, e sono gruppi sismica, di lupi mandari o lupi lupi? Chiaro che... Non siete riusciti a capirlo? Il proverbio... Direbbe di aspettarsi il meglio ma prepararsi al peggio. Chiaramente, come sapete, in forma animale sono un mannaro indistinguibile da un lupo normale. E qua comunque è indistinguibile dalle in forma animale, forma lupo, un mannaro è indistinguibile da un lupo normale. Ora, guardando le tracce dopo il passaggio di uno di questi gruppi, ho stimato all'incirca la dimensione sulla dozzina. Di lupi in generale? Sì, appunto. Ok. No, non è possibile discriminare se sono lupi normali okay. o meno. Ma sono 12 in totale o è solo un gruppo? Io 12. Ho trovato il passaggio di un gruppo. Ok, è solo più di un gruppo? È difficile dirlo. Li abbiamo sentiti in diversi punti della foresta. Non so se era lo stesso gruppo o due diversi. Ok, diciamo che non siete riusciti quindi a contattare in nessun modo Irina. Però scusa, loro non dovevano andare anche a Vaktargrad a portare il vino? L'avevate già portato il vino? Già portato. Sì, ha portato Sala. Salle Arci. E vi eravate dato appuntamento qui, quindi non ce la facevano fare tutta la strada. Quindi voi non avete nemmeno vista Irina attraverso. Non siamo riusciti ad avvicinarci perché abbiamo sentito questo gruppo che si avvicinava e quindi siamo tornati indietro. E abbiamo giusto fatto in tempo a vedere Vuoi andarci tu, Garro? Io penso che sia la cosa più importante a questo punto sarebbe cercare di eliminare questi lupi. Sì, e a tal proposito abbiamo trovato questo valente. Ah, è vero, chi è questo personaggio? Presentati. Come appari? Ah, ok. Appaio come un umano? Notare la scelta di parole. Ho una viola appresso. Ok. Cioè una viola appresso. Sì. No, il fiore. Capito. Una ragazza di nome Viola. Ah, no, è nata. Poteva essere. Ok, hai una viola appresso. Niente, è nudo, è lui con la viola. Appare, è un umano pure. Non male, con una viola. Appare come diversivo. Un nudo. Perché? Oh, se no crei un diversivo e la fai scappare. No. Lei deve stare lì dentro. Sì, ma sono tantissimi. Cioè, io vorrei. Il dubbio che ho è che se sia stata presa. Oppure se questi siano guardie, capito? Ma è vero, voi non avete. Vabbè, non avete nessun modo per sapere se lei è ancora lì dentro. Poi più avanti è schermata. Io ti posso dire che secondo me era molto di, da quel che mi ricordo, è molto difficile entrare dall'impalcatura. Avete per caso, quindi secondo me se hanno provato a entrare dall'impalcatura sono venuti, è venuto dall'impalcatura. Entrare si entra con, diciamo, dalla porta, dalla porta. Normalmente si ti apre lei dall'interno, quindi non proprio, diciamo, chiusa magicamente. Esatto, c'è un ok. Ma vi eravate lasciati, come posso dire, non so come spiegarvi, dei, vi eravate messi d'accordo su segnali, su cose, cioè se tu vedevi banalmente fuori dalla porta un oggetto è perché lei ha fatto questo, cioè non avevate l'idea in quel momento, lei doveva stare lì dentro, punto, in quel momento era trovarle un posto sicuro e quella era l'unico posto sì, sicuro che abbiamo trovato la roba. No, dai, presentati un pochino. Allora, fate un po' di parlation. Ok. Prima non mi vedevate, precisamente. Appare dal nulla. Per questo era oscurata la faccia. Pazzesco. Ed emerge dalle ombre. Salve, ho visto cosa avete fatto. Aspetta, questa è una cosa di Yule World, però. Lo usavo anch'io in Yule World. Basta metagaming. Bravo. Ho visto cosa avete fatto. Un po' un casino, no? Tu chi saresti? Bessere. Folle. Ti ha subito le cose in chiaro. Ma chi può veramente dire di essere qualcosa? Sono... No, io non ho mai fatto una roba. No! Io sono un semplice agente del... Che cosa? Sono un semplice agente del destino. Io vado in giro, suono la mia viola e osservo quello che accade. Mi volto verso l'Ictario e dico, ma questo da dove l'avete pescato? Non è comodo a trasportarsi una viola? No, tipo, così. Mi fa vedere. No, capito. È il mio personaggio che mi dice, è un po' più grande. Il personaggio dice, uff, non è comodo. Esatto. Perché tra l'altro non so se direi che. Io ho la testa da sciacallo e le branchie. Le branchie però magari non le vedi. Carino. Come no? Qui. Ma appare oppure la prendi? No, è dietro al tracollo. E quindi sei anche tu della... stai combattendo anche tu quel male che aleggia su queste, allora, terre. Come ti chiami? Anzi, che nome, con che nome vuoi che ti si faccia riferimento? Signor. Ho paura, alleiamoci col nemico, è più facile. È sempre stato più facile, però se lo sarebbe già finito dopo due puntate. Un personaggio che dice di essere una cosa ma non lo è, a girare le nostre spalle. Non lo so, è già così. Non è vero, in questa campagna non sto a girare le spalle. Sto allora hai convocato lui per questo, capisci? Ha subappaltato. Sta facendo tutta la luce del sole. Esatto, Giulio ci mostra davvero che non è sono vero volto. Che è per strada. Va bene anche un soprannome, Ciccio. Cosa stai guardando? Voltaire, Land of the Dead? Sì, è un bardo, le canzoni. E cosa devi vedere il nome di un certo? Ah, è quello che fa anche una delle canzoni che c'è in Le Tenebrose Avventure in Questa era la sua presentazione, quindi state attenti. In che senso lui si mette a fare? Lui si comincia a fare... Vi ho mandato un PDF. Un PowerPoint. Cioè noi ti chiediamo tu chi sei e tu lui risponde. Fai parte la canzoncina in cui lui si presenta come tutti... E la batteria è dove suona. avrà tipo... com'è? Taumaturgia. Beh, però non fa l'orchestra taumaturgico. No, beh, lui fa la viola e fa solo la batteria. Fa solo la batteria, non è fa. Siamo noi che rispondiamo, ovviamente. Spuntano i mannari dai cespugli e cominciano. Scena musical all'interno della gente. Poi tipo smette di suonare la viola, poi la tromba. Oggi è la puntata musical. Vabbè, è tutto questo, sono persi il nome. No, no, no. Non ascoltate quello che non lo fai partire. Non lo fai partire, non imposto. E quindi c'è un mannaro che è scocciato, butta via lo strumento e se ne va. Non mi pagano abbastanza. Qui visto lui qual è? Era nella canzone. Voltaren. Possiamo chiamarli però in tutti questi modi. Anyway, it's all the same. Anyway, si chiamerà. Ok, signor Anyway. Okay. Comunque, allora, dove parlavo con te? Anyway. To the gentleman, I'm Miss Fortune, so. Chiamatemi Miss Fortune. No. Che sfiga, Signor sfiga. Signor sfortuna. Mister Sfortuna. Mister Sfortuna. Ace Sfortuna. Ace Sfortuna. Signor Sfortuna, che fortuna! Tu sei venuto in questa terra in cerca di una persona e un libro. Ho trovato una mosca nel mio piatto. Ehi, guarda, ho trovato te! In questa persona era un potente mago. E il libro suppone il suo livello di incantesimo e sapevi che come le sue ultime notizie erano proprio che si era diretto in questa terra. Quando sei arrivato sei stato avvolto dalle nebbie e ti sei disperso per le foreste. Hai incontrato un po' di gente intorno al villaggio di Ballachi qualche settimana fa e dei viandanti, fai conto dei gitani, degli zingari con cui hai fatto un po' di chiacchiere, hai preso un po' di informazioni, hai sentito qualche racconto che tempo fa ci fu un terribile scontro nel castello di Ravenloft e si dice che un potente mago abbia organizzato una sollevazione popolare per cercare di sconfiggere Strahd. Ci fu una gigantesca battaglia, ma si dice che il corpo venne gettato dalla torre più alta del castello fino al fiume sottostante. E cerco il suo libro degli incantesimi. Sì. Ti puoi anche scrivere gli appunti. Che personaggio. Possiamo sostituire. Ok. Le tue ricerche ti hanno condotto alle pendici di questi monti. Giulio di solito tiene gli appunti. Sì, una volta sono stancato. Una volta teniamo anche le kill. Questo monte che avevo la mappa si chiamano. Sì, monte, le pendici del Monte Barto. E le foreste in cui siete sono le foreste di Svalich. Perché hai sentito da parte appunto dei racconti di questi viandanti che in queste zone si dice ci sia questo eremita pazzo che ha la peculiarità di lanciare fulmini addosso alla gente che si avvicina troppo. Monte Baratto. Il problema qual è? Che queste foreste sono infestate da lupi mannari. Hai individuato dov'è più o meno la loro tana, vicino alle rive del lago Baratok, appunto, che non è sotto il monte Baratok per qualche motivo. Che cosa? Il lago Baratok. No, il lago Baratok è attorno alla torre. È attorno alla torre, esatto. Io onestamente non avevo mai capito che la torre fosse da un lago, però vabbè, ci sta. Beh, avevo fatto anche delle immagini comunque. E aveva detto il tizio, il barbaro che avete incontrato, andate alla torre in mezzo al lago. Vabbè. Non mi ricordavo. E questo rende abbastanza difficile le ricerche in quest'area, quindi se tu riuscissi a trovare qualcuno per darti una mano a ripulire queste foreste dai mannari, potresti poi cercare il tuo bersaglio più facilmente. Bene, di questo voi non avete sentito nulla. Solo la canzoncina. Dovrebbe essere difficile, in fondo le foreste sono solo qui. Esatto. qui. Però appunto la tana dei mannari è lì dove c'è la Z. Quindi lui è un cacciatore di mannari? No, però diciamo che si frappongono fra lui e la sua preda. Ok, allora io gli chiedo cosa ti porta in queste tristi terre? Foglie terre. Te l'ha detto, basta cercare ispirazioni. Io sono un osservatore del destino. Ho visto il vostro lavoro, non mi è piaciuto. Lo ammiro anche se non mi piace, non condivido i margini di miglioramento. Lo tolleri, ma non lo accetti. Esatto. In pratica. Mi ricordo qualcuno. E come siete entrati in contatto con i nostri amici qui nella carovana? Ci abbiamo non in giro, ma abbiamo gli effetti sonori sta sessione. Bene, allora smetti di urlare. Chiedo a Ritario che cazzo stanno facendo, tipo. E che cosa, perché io a questo punto proverei a organizzarci per scominare i lupi, che siano bannari o meno, però abbiamo per riposare. Sì, da Richten, appunto, vi dicevo, abbiamo incontrato lui che ha detto che ci può aiutare a cercare di migliorare la situazione in queste foreste. E così almeno da alleviare queste terre da questo flagello dei mannari, perché nelle ricerche che ho fatto dovete sapere che in questo branco è comandato da un capo, e praticamente per ingrossare i loro ranghi rapiscono bambini da i villaggi di Barovia, ma anche villaggi esterni. Prima di venire qua ho sentito delle storie simili anche fuori da Barovia, il che vuol dire che hanno la possibilità di mandare comunque. Sì, su questo non c'è dubbio che ci siano dei mannari. Ok, qui c'è che il gruppo lo so ti mandare. Sì, non puoi sapere quanti sono mannari e quanti sono normali. E di solito si sa che i mannari si circondano di lupi normali per fare branco. Quello che vi volevo dire è che hanno la possibilità di uscire ed entrare da Barovia. Questo evidentemente gli viene concesso da Don Giulio. Andiamo a farci mandarizzare subito. Ciao! È stato bello. Le soluzioni fine. Purtroppo questa soluzione non è ben praticabile, perché come vi hanno detto i guardiani delle piume, contrarre la mannarosità. No, stavo scherzando. Il suo umorismo è sempre ben apprezzato, il signor Valister. Bisogna prima stravare questa terra. Bravo. E puoi darle fuoco. Se possibile, quindi, puoi darle fuoco. Bisogna salvare questa terra col fuoco dalla follia. Hanno il lascia passare attraverso la coltre di nebbia. Questo lascia passare sappiamo benissimo chi è il solo che lo può dare. E l'ufficio due, appunto, ho capito dalle storie che ho sentito che sono qui attorno a lui. Presto, dai, Giulio. Loro assaltano i villaggi. Delle persone, rapiscono i bambini e una volta che li portano nella loro tana, quelli ritenuti degni sono trasformati in mannari per aumentare il loro numero. E gli altri, suppongo, mangiati. Non lo sappiamo, ma purtroppo le speranze sono poche. Ma dal menù che prevede dove sono. Dicevo che volevo le basi vegetariane, non avevo tanti piatti vegani. Mordecai! Allora, non si chiama Mordecai. Sbeck! Era passato un suo amico. Volevi entrare? Non boh, vai a verso. Cazzo, ristorante. E a proposito, beh, prima mi dicevate dello scontro che avete avuto, siete feriti, avete bisogno di cura, com'è andato? È stato uno scontro molto duro, diciamo che un po' di cura ci farebbe comodo, ma soprattutto dovremmo almeno riposare una notte. Questo è un po' complicato. Se vogliamo affrontare i lupi non c'è alternativa. Una notte almeno accamparci da qualche parte, dobbiamo farlo, che sia la miglia o qua. Cioè, le possibilità erano o la vigna, come però è lontana, o Kretsk, ma quello che mi dite qui voi. Qui non ha molto senso perché arrivano... Stare fuori la notte nelle foreste è un suicidio. Anche i mondi. Allora andiamo alla vigna. Alla vigna. Ci sarebbe la torre, però... Per quello che ho visto potrebbe addirittura essere una trappola. No, io, cioè, nel senso, anche se perdiamo un po' di tempo, però meglio affrontarle al massimo della nostra possibilità per com'è la situazione che andarci a caso. Quindi delle due perdiamo tanto noi in una riusciamo ad andare in giornata dalla vigna alla torre. E quindi adesso andiamo a tutta velocità alla... Se pensate che non siamo in grado di poterci accampare qua fuori, andiamo alla vigna. Anche stare qui fuori stiamo rischiando. Certo, allora andiamo alla vigna, riposiamoci e quando siamo tutti in forze andiamo. Torniamo a Kretz. Da quello che mi avete detto la situazione può essere... Siamo abbastanza in forza. Vi dico la mia preoccupazione. Sì, anche i popolani. Dove c'è il caos e la violenza si infiltri il male. Quindi cosa vuoi, tornare a Kretsk e provare a distruggere i Mongrel? Non lo so, è quello che mi hai raccontato, la situazione è abbastanza complicata. No, oddio, cioè se curate al massimo ci possiamo provare. Abbiamo finito tutti. Però se abbiamo Esmeralda, Kevin, certo. Rittario, il tizio nuovo. Sì, curate al massimo, andiamo lì e affrontiamo tutti i cicci. Sì, se abbiamo sfortuna, chi sfortuna sfortunato. Abbiamo la fortuna di avere sfortuna. Signor Sfortuna. Signor Sfortuna. Ma maschera femmina, signor Sfortuna. Cioè, a me, al detto di tutto, fa piacere se riusciamo a salvare Kretsk. Però? Adesso non mi ricordo se gli avete detto che vi hanno cacciato in malo modo gli abitanti. Vabbè, non ha importanza. Non è importante. No, ed anche un corvo intanto. Noi non lavoriamo per la loro gratitudine. Cioè, da quello che mi avete detto, adesso che è morto l'abate c'è un vuoto di potere. Certo. Dovunque c'è un vuoto di potere si può infiltrare, voi sapete chi. Beh, sì. Come noi in città che noi abbiamo. Esatto. Allora andiamo, se tu sei in grado di aiutarci, come siamo messi a cure? In realtà io... Io mi sono recuperato perché ho fatto 7 dadi, quindi non mi ricordo. Dovremmo passare a prendere degli zingari come guardia, l'unica cosa. Mancano qua. Io... In realtà eravamo messi benino tutti perché avevamo usato i dadi. Parlandovi sinceramente, il Kretsk ha delle... ha delle mura che sono molto grosse e resistenti. Torniamo a la porta è aperta. Però si può riparare. No, ok, nel senso, se tu mi... Ah, per rientrare tu dici. Sì, ah, cioè, ok, pensavo adesso, dicessi se no, noi, non è se più tu difendibile. Ci quanti siamo messi con le ferite? Se ci rimettete andiamo tutti insieme a eliminare Mongre, salviamo Kretsk e perché ci cambia? La prendiamo sotto il controllo e poi da lì sarà la nostra base. Potremmo così guadagnare un prezioso punto d'appoggio. Certo, noi purtroppo lo volevamo fare, ma non siamo stati in grado di eliminarli tutti perché sono tanti e sono forti. Ho capito. Ne abbiamo eliminati forse la metà, però c'è anche un golem di carne che è un po' difficile. Scusa, ma abbiamo già la nostra base della vigna, che dobbiamo far fatica per costruire. La vigna non ha delle mura di pietra alte metri. Ho capito, però come poggio adesso possiamo andare lì. Ci sta però, perché il problema principale è che io sono maledetto. Come scusi, signora? Ma tu lo sai? Sì, sì, sì, lui lo sa. Nel momento in cui ha ucciso il troppo. In che senso, maledetto? Che quando tira, cioè, tiro sempre. Era effettivamente ragione, vedendola in faccia, però... nel senso che ha questo muso lungo. La nostra prossima iniziativa. Ho tirato 3 dadi, 2 20 o 17. Ma perché gli hai tirato? Sono le nostre iniziative. A parte che non ho dei dadi, quindi mi dovete prestare. Che cosa è successo, mi spieghi? Abbiamo combattuto contro un angelo, cioè... Non hai dadi che tirano molto, speriamo. La batte alla fine era un angelo. Un angelo caduto, cioè, queste cose possono succedere, più o meno. Se spari gli uccelli, a quanto pare. E so, non hai bisogno di cani che corrono dietro i piccoli. Cosa fa? Signorante, la sa. Vabbè, non c'è tempo di ragionare sulle follie di un folle. Vabbè, però se mi sta dicendo che si sente sotto una maledizione. Vabbè, uno può sbagliare ogni tanto. Errare è umano, no? Non lo dica a me. Purtroppo alcune scelte di Atlas non sempre hanno un senso logico. In un luogo dove ci sentivamo impauriti, ha agito d'istinto e mi ha pagato le conseguenze. Ti ho coperto. Il buono di così. Questa affermazione solleva solo più domande di quante non ne chiude. Però ci trovavamo dentro l'abbazia, c'era un sacco di robe strane, fantasmi che apparivano, corvi. È vero, abbiamo incontrato delle ombre, fantasmi, un corvo. Sì, più o meno la cosa. Però no, abbiamo sconfitto delle ombre nella paura generale, è capitato. D'accordo, se questo te lo desidera, signora Atanas, posso rimuovere il malocchio che la figlia. No. Sì, più che altro perché così saremo più efficace nel combattimento. Vergogna, vergogna. Se per favore non lo dice ai nostri amici corvi. Vergogna. Come dire, ho sprecato un sacco di critici questo fatto. Vergogna. Va bene, manterrò il riserbo, ma in cambio per favore cerchi di rispettare la fauna del luogo. Ok, la fauna sarà rispettata. La flora invece. Purtroppo non possiamo stare troppo. Io dopo ho un albero e un uccello che è sull'albero muore, non è colpa mia. Giusto? Dai, ma dopo, cioè, dopo aver tipo una penitenza, tipo deve piantare un albero di corvi. Cosa? Cioè devo prendere tanti corvi, infilarli con delle frecce a forma di albero. No, vieni piccolo. Ora crescerà un albero. Oppure gli cambia una parte del corvo. Ah no, questo è già fatto. Sono rimaste molte. No, purtroppo è una cosa semplice, non sono quelle robe pesanti che ti rimangono addosso. Magari all'istinto dei cani ogni tanto ci si attacca la gamba. Abbiamo già fatto le battute sul fatto che i cani hanno l'osso. No, però dicevo, sai che ogni tanto quando sono in casa si attaccano a qualunque cosa, non vorrei che lo faccia anche lui. No. Tipo siamo lì che combattiamo, Giulia si gira ed è così contro un altro, sarebbe divertente. Non sono io che fuggo dai combattimenti. Sono i lupi che lo eccitano. S24 allora. No, anche quello, ok. Devo controllare quali erano gli incantesimi che lo rimuovono. Però sì, lui ti tocca con rimuovi maledizione. Ti senti più fortunato. E oh, Mister Sfortuna. Mi sento più fortunato. Sta già iniziando la mia effetto. E soprattutto riprendi la tua forma umana. Cosa? No. Cosa? Rimuove maledizione, rimuove... No, non glielo fare. Allora. E quindi perde tutti i bonus. Perde i bonus, però ha di nuovo la sua faccia. Sei sicuro? Giulio? No. O si tiene la maledizione del corvo. Tieni la maledizione del corvo. Cazzo. Però ho ancora il mantello che mi dà vantaggio a nascondere. Qual era il mantello che dà vantaggio? Il mantello col cappuccio. Quello te lo dà in quanto mongrel, non in quanto mantello. Cioè, che cosa inutile? Ho messo un bonus. È questa la il contrapasso. Guarda come cosa. Dai, dagli una punizione. Vabbè, onesto, ci sta, mi piace. Io scuro visione. Cioè, purtroppo anch'io l'avrei rilasciato come era prima, era divertente. Io vantaggio la percezione su di te. La maledizione l'abbiamo tolta, abbiamo perso anche due livelli, però. La cosa che mi dà più fastidio è via anfibio, perché l'ho dato solo una volta, ma è stato fighissimo. Due livelli che avevamo rubato uccidendo un bambino. Quindi ora adesso ritorno in città e lo riconoscono come quello che ha ucciso il figlio del borgomastro di Milano. Che ironia! Oh, per fortuna non siete più con quel cane brutto. Ma dove è quello che ha ucciso il borgomastro? Che ironia! Due, quattro, Giulia ha fatto una cosa sbagliata e ha ottenuto una promozione. E poi ne ha fatto una sbagliata. Una promozione. Di questo. Ah. E non c'è più la bata. Vai, vai, vai, andiamo. No, in realtà è meglio, non sono più un cane. Cioè, non c'è neanche più la bata che lo può pimpare di nuovo. Ma il mio personaggio in realtà preferisce non avere la faccia da cane. Ma come? Quindi sembra 7 più 4. Così non ci riconosceva. Pensano, però non mangerò più i cadaveri o le ossa. No, beh, quello potrebbe. No. Dici che mi è rimasto. Se troppo ne prendo un altro. Scusa, l'istinto di mangiare carne umana gli rimane, sì. Tipo un attimo morsino. Vediamo, vediamo un attimo. E ho preso l'expertise. Tiro salvezza sulla volontà. Vedi, tiro abbiamo la faccia del gruppo. Visto, no. Ma cioè, tu hai la volontà di tenere l'istinto di mangiare la carne umana? O cosa abbiamo? La faccia del gruppo, qualcuno che può parlare alla gente senza venire sputato in faccia. Perché io ho linciato? Sì, ho capito, poi ha funzionato alla grande. Cioè, è andato benissimo finora. Vabbè, perché io tiro tipo 16 e Kata fa la gente vi viene a cacciare con le torce. Devi capire, Vez, che se Abate ha creato un piano di merda e voi non ci siete stati, è colpa vostra. Sì, lo aspetto, non però mi ricordo. Però mi uccido con Però non puoi dire in faccia la scheda. Sì. Abbiamo una scheda bianca. E io ai popolari ho detto l'abate è un po' di cosa, l'abate ci ha salvato. La cosa. Quando potremmo sacrificarne una di un vecchio personaggio per dargliela. Uno di quelli sci. Esatto. No, tipo questo Ade che è morto. No, quella di Lars. Ah no, ciao Lars. Ok. Quindi mi tocco di questo. Non ho più la faccia di cane. Rictavio ti dice: non c'è di che, signor Atanas. Ma io non ti ho ringraziato. Come se avesse fatto. Esatto. No, non me l'aspettavo. In ogni caso, non deve farlo. Rictavio ti aveva già visto cagnoso. Carisco. Sì, quando è tornato alla vigna. Ah, sì, sì. L'hanno visto tutti i cagnesi. Sì, sì, sì. Pensa, adesso posso andare da quelli che mi hanno visto solo cagnesco e spacciare per un'altra persona. Cosa mi è successo? No, poverino, che hanno bruciato la casa. Ora torni a Cresche, sei di nuovo quello che ha ucciso il ragazzino. Non so se chi lo sa è sopravvissuto. Questo è vero. Io sono tutta un'altra persona, venite, amici. Ok. Tornate, quanto tempo ci mettete? Beh, aspetta, con le cure adesso. Giulio non ha dato una risposta definitiva. Se Rictarium, allora mancano 8 punti ferita a me, 15 a Sheo e se tipo 20 a te. Allora facciamoci cura. Ok, allora dov'è che sta? Ok, però su che cosa basa? Perché ho il libro che posso prendere cose a caso. Sì. Hai già preso 6 tu di terzo di bello dell'oro. Quindi i segreti di Giulio sono postrati. Altri avanti. Alcolismo, persuasione. Quindi non lo padre Michio, perché ce li ha preso? Padre Michio. Comunque avevo 3 country extra, credo, per loro. Bardo della loro. Sì. Questi secondo me sono punti di colori. Niente. Ok. Come sì. Su colori. Guarda qui ho una Lightning Blast che da carisma. Lightning Blast. E The Secret. Ok. E Dark One's Blessing in the Aspect sul forza. Quando c'è di qualcuno. Ok. Cos'è, solo questi, Giulio? Sì. 66. 176. Quanti ne ha? Santa Garrosh. Io 60. E tu sei. Quindi progressiamo in Yoshio. A proposito di curateci, stare male o stare male, come la vedo io ad avere un punto negativo? Lo sento, non lo sento? Cos'è che tu? Ho ancora un punto negativo, un punto ferita negativo. No, non ti senti al tocco, però cioè, è un punto su quanti? Su 85. Allora. No, però che lui sente di essere maledetto. Io sento di avere qualcosa o no? Perché nel caso chiedo anche un intervento di qualcuno. Paladino? No, io sono abbastanza. Cioè, sono ancora pieno da prima. Sì. Tu sei maledetto perché sei l'ultimo che ha ancora. Lui è l'unico che ha ancora. Una delle rare volte in cui l'asmi è curato. Il punto. E ovviamente mi ha curato per darmi il suo. Okay. In che ordine vi fate curare? Vabbè, lui. Allora, il PRP è messo peggio lui, ok. Quindi prima va da te. In ordine di numero di punti feriti. Una cura di secondo d'ordine livello. Di terzo livello. Quindi. Sì, a crescere. A crescere, mentalità. C'è stata la mia barbetta. Senti come è morto già. 2-9. È il basso. Cura somma. Non tirare, prendite l'ultimo. Basta. Cura ferite cosa somma? Cioè somma qualcosa o il dado secco? Secondo me metti un più 15. La caratteristica di base. La caratteristica dell'incantatore. Più livello. Diventando un barbone importante. Andare al barbiere per questo vedo. Credo sia più così. Una cosa dei chierici delle baffe del resto della barba. No, l'incantesimo è un di 8 più il tuo modificatore. Non viene bello folto. Ma ci sta. Però tu quando lo lanci di livello più alto aggiungi solo un D8, non sì, aggiungi un D8 un modificatore, più. Ok, sì. Quindi sono 13 PF più 15 a Vardistram 59, però aggiungerò un'altra curetta. Allora, beh, adesso intanto tu sei un po' migliorato, yes. Quindi fammi usare questo. Allora, lui ha fatto rimuovi maledizione. La cosa il golem sì, solo con le armi magiche non incantesimo sì. Io ho l'arma magica anche tu no. Allora abbiamo un caster io sono un bardo. È caster. Un caster un bardo, anzi è più forte sì, del gioco però... E poi ne ha fatto uno di secondo, cioè anzi sei un caster poi... sei un warlock bardo. No, io sono un bardo, io suono, voi non sapete che i bardi possono lanciare magie. Cioè, i bardi possono lanciare magie. State assalendo. C'è questo per cui immagino. Tra te e Garrosh, chi ha messo peggio? No, ma io non ho neanche molti punti feriti. Ok, Garrosh, vieni qui che ti do una cura. Ah, 5 PF. Però si ciuccia il mio punto. Se ne prende uno, te rimane. Oh, cazzo. A me rimane? Sì. Perché? Ah, è quando curi sotto di uno non è che scende. Se nessuno, se non ti viene rimossa da. Quanto di cura quindi? 5. 5. Ha fatto 1. Yes. Più 4, 5. Okay. E quindi Rictavio si becca. Se lo blocca. Se un problema. Non lo so, se vediamo. Si becca un PF negativo e dice. Ah, cos'è questa? Questa sensazione e anche a noi fa schifo toccare, non lo so, è da un po' di tempo che lo so, mi sento può essere calcolo più debole, credo sia colpa mia. Siamo è fermi. Da un po' di tempo che anch'io ho questa sensazione, ce l'ho da quando riconosco che ce l'ho da quando mi ha curato Mars, me ne sono accorto, no? Come se ne è accorto Rictavio adesso forse. Deve essere uno dei quegli sporchi trucchi di quel maledetto. Credo l'abbiano avuto anche i miei amici in passato, questa sensazione. E come hanno fatto a perderlo? Sinceramente io non lo so. Voi lo sapete? Sì. Sì. Sì. Sì. Vabbè, tu sei amico di strada, te l'avrà tolto lui. A me sì. Io l'ho persa Hai curato un bambino, no? Non è no, che... mi sa che l'angelo l'ha rimossa. Non avevi curato un bambino? Che no, quello era il piano, ma alla fine non ce l'abbiamo mai fatta. Ah, okay. L'angelo? Quello che abbiamo ucciso due sessioni fa. L'abate. A te no, a me no però. No, a te, a me l'ha rimossa strada. No. O te l'ha rimossa anche. O te l'ha rimossa Rictavio? Rictavio mi sa. Ho fatto qualcosa che me l'ha tolto. No, secondo me o te l'ha rimossa Rictavio o l'angelo. Scusa, non te ne liberi curando. Cosa la smetti curando? Io mi ricordo che si ripassavano, ora tu ne hai uno dei miei, ora sì, tu però perché ne avevano più di uno. A un certo punto. Ah, uno ti rimane. Se non ti. Se nessuno non che lo toglie, uno ti rimane. Secondo me gliel'ha curata o Rictarion. Rictarion, scusa. Sicuramente non l'abate. Cioè io con l'abate l'ho, non c'è più di che fare, sono andato via. Era un folle. Rictarion me l'ha tolta. Lui? Ho fatto qualcosa che so che me l'ha tolta. La pietra? No. Mi ricordo. No. A me Race Bayern l'ha tolta a strada. E quello me lo ricordo. Secondo me è Rictavio. Se l'ha tolto lui. Allora sarà meglio che. Bisogna riguardarci, per un certo punto l'ho persa. Allora avrò bisogno domani di cercare di rimuovere questa. Deve fare una maledizione. Secondo me l'ha tolta la rete. Ma no, non ho abbastanza potere magico dopo che l'ho fatta. Che cacchio fa? A Vardistran. Se soprattutto se adesso dobbiamo andare. Non mi viene in mente sì, nessuno. Sì, ma me l'ha fatta. Cioè io era un po' che non ce l'ho. Non mi viene in mente nessuno che può avertela fatta se non lui. E mi pareva di aver fatto qualcosa che me l'aveva fatta rimuovere. Però magari mi sbaglio. Hai fatto uccidere il Borgomastro. No, avevo fatto un. D'accordo. Tu, Mister Sfortuna, vuoi chiedere qualcosa ai tuoi nuovi amici? Quindi hai un'altra cura? No, adesso ho detto prima di fare altre cure è meglio okay. Non evitare di vai. Spargere il. Di spargere questa non maledizione. Esatto. Meglio non infettare ulteriormente, altrimenti dovremmo spendere troppe risorse. Sì, per allora si dà un punto. Va bene, ricominciate allora a tornare indietro. Siete qua. 2 ore e mezza. Che cosa? Quindi andate verso Kretsk, giusto? Sì, marciamo su Kretsk. Marciamo su Kretsk di nuovo. Compatti, io siamo tutti a piedi anche. Ah no, loro hanno il carro. Sì, chiaramente. Andrà a passo d'uomo. Mentre camminate hai delle curiosità da chiedere ai tuoi nuovi amici. Ispirazione per scrivere delle ballate. Qual è la vostra. Il vostro rapporto con questi lupi mannari? Ma sai, un rapporto comune all'altro? Un qualunque. Occasionale. Se respira può morire. Beh, è beato lui. Beh, ovviamente se ci sbarrano la strada. Beh, sono creature del maligno e quindi vado eliminato. Il vostro amico qui aveva una testa da sciacallo fino a poco fa. Allora, credo. Diciamo che lui è forse ancora recuperabile. Non è una questione di aspetto. Io non mangio le persone. Non più. Da quando non ho più la testa da sciacallo. Forse. Da sciopero. Forse. Ma ha dovuto subire. A volte è meglio non farsi troppe domande. Io non rapisco i bambini per trasformarli in mannari. Mangio e basta. Beh, lui però dietro quella faccia da cane. Potrebbe avere una bella storia da raccontare per ispirare una tua ballata. Vedremo. Sarò io a giudicarlo. E quindi tu sei interessato ai lupi, mi pare di capire, o altre creature malvagie, sei forse anche tu una specie di lupo? Cacciatore. Lupo. Cosa stai dicendo? Di creatura malvagia, sì. Sei forse anche tu giocatore di qualcosa? No, sei interessato alle creature del male. Le collezioni. Tutti quelli. Non sono me. No, io sono un semplice osservatore. Non lo so, che cosa stai facendo? Deception. Non c'è, non ci sono le prove tra i giocatori. Non lo puoi fare. Devi farlo veramente. Tanto è facile convincere. Il suo personaggio. Sono un semplice osservatore. Osservatore. Scrivi per un quotidiano di Barovia. No, lavora per una squadra di calcio. Fa l'osservatore in quel senso. Ah, trova un rimando, scrivo solo per me stesso. Campionato di calcio tra lupi e mannari. Perché Van Richten diceva che sei invece specializzato nell'uccisione di cose. Mannari. Cose. Ah, prima l'ha detto, ha detto che... Oddio! Okay. Colpo di scena. Aveva detto che ci può aiutare. Sì, ho appena provato a uccidere il vostro amico. Sì, ma io visto che Marrick non è un coglione. Inserirlo. L'incidente. Marrick non è un coglione. Il bello della diretta. Non è un coglionovic. È un coglionovic. Qual è il ragionamento? Spesso. Non capisco perché Giulio che cane. Come vedi, gli incidenti capitano. Se qualcosa si mette sulla mia strada, può capitare un incidente. Io non è che sono un cacciatore di prima andare. Un incidente. Quindi la speranza è che i lupi siano fortunati incontrando. Beh, se quelle bestie ti sbarrano la strada, è giusto che tutta la riapra. Ci per il momento ci siete voi, se qualcosa sbarra la strada. Ah no, pensavo che possiamo sbarrare la strada. Beh, prima o poi, vediamo. Ha già detto che prima o poi ci ucciderà. Sì, più o meno. No, già. Sì, perché stiamo già guardando il tuo cellulare. Sì, non c'è andato. Ma basta andare indietro di. Ah, è un buon motivo per ricordarsi la diretta. Allora, vabbè. Non è ancora chiaro però da che parte tu stia. Dalla mia. Ecco che torno. Ci siamo. E di Strad, che cosa? Col conte Strad che rapporti hai? Non conosco questa persona. Sei a Barovia da quanto? Ma poco. Eri appena arrivato dalla cucina. Mi è andato alla missione. E chi ti ha dato? Eri andato in cucina a prendere l'acqua. Fai molte domande. Beh, sì. Dov'è? Non so chi sei, quindi sì. Noi siamo impegnati in azioni un po' critiche, quindi sapere chi c'è al fianco. Questa politica l'ha indicata da molto, vedendo il vostro gruppo. Da recentemente, visti gli sviluppi che abbiamo avuto. Noi in realtà ci conosciamo da più tempo. A Esmeralda non mi hai fatto una domanda. No, Esmeralda mi ha detto chi era e tutto. In realtà è una vostra, è una tua elucubrazione nata dal fatto che Salla tra un giochino e l'altro che stava facendo mi insultava senza ascoltare quello che succedeva. No, ma finito la Coca-Cola. Stiamo ricordando un momento partito. Beh, se vuoi sapere qualcosa su di me, tira fuori un piccolo tomo per le preghiere. Beh, questo è da dove vengo, più o meno. Dal libro? No, questa era la mia vita in un convento tanto tempo fa. Vangelo. È una, posso tenermi una copia? No. Posso leggermelo nel tempo libero? Te lo porge, è un libro delle preghiere, ma se vuoi, leggi. E ci sono delle preghiere? No, so cosa c'è. C'è? Beh sì, il background è d'accolito. Ok, sì, ci sono delle preghiere. Oh, quindi sono delle preghiere di che tipo? Religiose. Quindi sei un uomo di chiesa, insomma. Non più sono uscito da quelle cose. Però sono stato abbastanza. Adesso la mia ispirazione è la mia chiesa. sicuramente sei venuto in un posto dove l'ispirazione non manca, ma la disperazione è più fitta. Beh, anche quella è una mia specialità. Tu serio? No, ti prego. Poverino, almeno è righiere. Oh mio Dio. Sì. Va bene. Oh mio Dio. Ok. Poi ti saluto. Ci siamo. Nel commento dopo ciao, vi ricordate. Grazie. Ciao, Jack. Non c'è un drop. Ok, tra una cosa e l'altra, ritornate in vista delle mura verso sera. E anche perché ci vogliono circa 3 ore e mezza per fare avanti. Davvero? Poi fate... Dal bivio? No. Sì, dal bivio a Vallacchi sono circa 3 ore e mezza. Quindi voi siete andati a Vallacchi al bivio, avete riposato lì un'ora, state tornando indietro, tra una cosa e l'altra sono più di 7 ore e mezza. Ok. Quando tornate c'è la strada sbarrata, la porta che è stata richiusa e praticamente sprangata con delle assi in maniera molto, come dire, molto grezza, però anche con un sacco di materiale che c'è stato accatastato e inchiodato sopra. Per cercare di richiudere la breccia. Ma dall'esterno o dall'interno? Voi vedete solo dall'esterno, chiaramente. Okay. No, non è chiusa dall'esterno. Cioè, quelli della città hanno detto effettivamente se i mongoli venissero qua e ci mangiassero tutti, cioè chiudiamo l'unica via di fuga che potrebbe. No, non avevo capito bene. Vabbè, sì, hanno fatto esattamente il contrario di quello che si può. Ci avviciniamo alla porta. Io direi che io ti ok. Però è vero, cioè. E che ovviamente vedevano in noi i veri nemici. Sì, sì, sì, certo. Infatti adesso sfondiamo e entriamo. Diamogli fuoco. Sì. Vedete che sulle mura ci sono degli individui ad intervalli regolari. Mongrel o... Non vedete chiaramente anche perché sono un po', diciamo, nascosti dai merli, dai... Stai corvi! Sarà un'altra rimane malizia. Però vedete appunto che ci sono dei puntini che si muovono, delle punte, vedete le punte di lancia che fanno la ronda per coprire il perimetro delle mura. Beh, perfetto. Tanto noi siamo molti di più, abbiamo il carretto, no? Ed è notte. E sta imbrunendo. Usiamo per quanto qua il carro come ariete. No, diciamo che abbiamo il vino. Noi altri ci nascondiamo dentro. Finalmente Vez ha capito qual è la password per tutte le porte in questo gioco. Se io e Sceo siamo un po' più. Un po' più acquattati e. Se no potrebbe. Ah sì, cioè che andare lui che. Converrebbe che parlasse o qualcuno degli altri. Ah, se solo ci fosse un personaggio che prima non c'era, che ha un grande cazzo. È quello. Faccio una scala con la mia viola e appare... Nel senso una scala di notte o sì. Una scala più... No. Faccio una scala con la mia viola. Appare mio famiglio come un gufo. E dico... Ehi, vai a vedere un attimo cosa succede. Un gufo! Oh mio Dio! Dovevi scegliere un corvo come famiglia, avrebbe funzionato. Uso la mia azione per vedere quello che vede il famiglio. Mentre fa un'ispezione del perimetro. Più dettagliato. Potrebbe non servirti neanche l'azione, no? È find familiar, giusto? Sì. Credo che ce n'era. Gli amici di Gini hanno fatto picchi blindi. Sì, è vero. Un'azione per vedere attraverso i suoi occhi. Ok. Vedi a volo d'uccello. Tu, vero, non ci sei mai stato in quest'area di città. farò vedere una mappa, lo faccio qui, così vedi anche il colore. Sì, dove si scusate. Eccola qua. Voi siete arrivati da qui, qui c'è la stradina, qui comincia a salire questa collina che dà appoggiata ad una montagna che sta qua. Intorno ci sono queste mura di pietra e dall'alto il gufo vede le casette che ci sono tra gli alberi all'interno, e qui c'è un pozzo, un laghetto che è tutto fangoso. E questa è una foresta? Questi sono degli alberi, la foresta è questa qui intorno. E qui, in teoria si può passare da qui? Questi, vedi, qui ci sono le altezze, e qui praticamente comincia ad andare su e diventa una montagna, e qua sul posto, diciamo, ci hanno costruito un'abbazia. Vedi il tetto di questa casa che è carbonizzato. Solo quella casa? Eh? Solo quella casa. Non c'è altro intorno. Non è che si propaga sulla pietra. Tu cattivo lavoro. Oh, quindi perché volete entrare qua dentro? Per trovarmi un posto dove passare la notte. Dobbiamo. No, scusami, dobbiamo sconfiggere. Ah, scusa, dobbiamo uccidere tutti quelli rimasti. Mi confondo a volte tra sterminio e hai presente come era Luigi fino a poco fa? Ecco, lì dentro è pieno di mostri simili, però mentre lui comunque ogni tanto è senziente, no scherzo, ogni tanto, cioè comunque dalla nostra parte, questi sono delle furie che vanno in giro a mangiare persone. E noi ne abbiamo eliminate la metà, ma ne rimane ancora sui 20 e qualcosa, più un golem di carne. E se non facciamo niente, gli abitanti che sono qui dentro, che però sono comunque contro di noi, e moriranno tutti. Quindi per dargli una chance e evitare che il Conte Strand prenda il possesso della, che è un po' il capo di tutto qui, è un conte vampiro, prende possesso della fortezza, dobbiamo entrare, uccidere questi mongri e fare capire agli abitanti che c'è comunque una seconda opzione. Beh, se gli abitanti vogliono restare sotto il conte, perché volete interferire? Diciamo che interferire è il nostro obiettivo primario. Interferire è il nostro secondo nome. Perché anzi, è il terzo, il secondo nome è distruggere le città. Se non te ne sei ancora accorto, tutta questa regione, ma da Barovia, praticamente chi entra non può uscirne perché è sotto una maledizione che è legata al Conte Strand. E quindi probabilmente mettendo fine al Conte Strada e alla maledizione si libererebbe anche Barovia da questo gioco malvagio. E forse libererebbe anche loro. Sfortuna, dici? Cosa vedono i tuoi occhi da gufo? Allora, i suoi occhi da gufo, vabbè, adesso lo dico a lui, poi lui se vuole lo dice a voi. E vedono che sulle mura, appunto ad intervalli regolari, ci sono questi figuri che camminano in maniera abbastanza ingobbita, non sotto possesso, e hanno addosso delle vecchie cotte di maglia arrugginite, delle lance, anche se insomma sia armi, armature in cattivo stato, però ancora utilizzabili. E all'interno vede che c'è una casa col tetto bruciato, e però intorno a questa e ad altre c'è della gente che sta eseguendo dei lavori di riparazione, dopo che appunto sembra sia passato qualcosa che ha arrecato danni. Insomma, sono tutti impegnati, operosi a cercare di riparare il più possibile prima che arrivi la notte. E la situazione ti sembra tranquilla, non vedi segni di grosse scontri o qualcosa. Si tratta di una ridente cittadina, è tutto molto produttiva, e a quanto pare però la milizia cittadina è un po' gobba e ha delle armature un po' trasandate. Beh, però non hanno fattezze mostruose, non li vedi? Non mi pare di aver visto fattezze mostruose. Fai una prova di perception attraverso gli occhi del tuo gufo. Devi usare le sue caratteristiche. Tira perception, gufo. Tanto non è un problema. Sembrano normalissime. Sono normalissime. Vabbè, stando a questo, io penso che i mongrel siano rimasti per il momento ancora nell'abbazia. Beh, però ci dice che camminano ingobbite, non abbiamo visto i mongrel. Eh sì, però alcuni mongrel più che girare ingobbiti sono tipo dei mostri. No, ad esempio i due che stavano fuori dall'abbazia, sì, se tu l'avresti visti dall'alto avresti sì, visto solo delle persone ingobbite. E sì. Poi lui, essendo stato un mongrel, sa che sono molto bravi a camuffare il loro aspetto. Secondo me i mongrel stanno, non so se hanno preso controllo della città, ma sicuramente sono loro che... Secondo te loro hanno la cube per poter fare una cosa del genere? C'è la possibilità che si siano alleati abitanti e mongrel contro di noi? Non so se dopo... c'è questa possibilità. Alcuni dei mongrel erano più intelligenti degli altri, non so se è passata la frenesia una omicida dopo la scomparsa dell'abate, se è un attimo rinsaviti, non so. Però sono senza dubbio in grado di pattugliare delle mura come erano in grado di stare di guardia all'abbazia. Però mi sembra assurdo che, cioè, con gli altri tipo gli sono andati via e li ha mangiati tutti. Con beh, noi scatenati a strada. Con noi ci hanno attaccato senza pietà. E con questi vanno lì e fanno. Costruiamo un nuovo paese! No, non lo so, questa è un'ottima osservazione. Magari hanno preso il possesso loro, loro sono. Gli romani sono gli schiavi. No, questo è. Il caso è ovviamente probabile, però non mi sembravano in grado di pensare una cosa del genere. In quel momento, quando ci hanno assaltato, non sembravano proprio in grado di pensare. Beh, ecco, quelli con cui si poteva interagire e parlare, sembravano comunque. Non particolarmente furbi, sì, però in grado di pensare come degli esseri umani, non particolarmente svegli, sì. No, molto sotto la media. Beh, adesso il cane è ok, ma la lupo già meno. Quei due lì con cui abbiamo parlato non ce la potevamo fare. No, solo erano i migliori. Ed erano i migliori, in teoria. Cioè, capisci che... Vabbè, ma ad esempio quello che aveva due teste suonava il violino, che è stato scaraventato giù dagli spalti. Appunto. Ti sei appunto tirare. Sai suonare questo con la viola? Potevi portare il tuo violino, Marco. Potresti provare a suonare questo con la viola e vedere cosa succede. però potremmo provare a sfruttare, magari qualcosa succede. Sì, lui era l'unico quasi senziente e comunque è stato scaraventato. Saluto. Vabbè, però in quel momento io ti dico che probabilmente quelli sugli spalti secondo me sono mongre. Vabbè, e quindi cosa vogliamo fare? Cioè, come dire. Cioè, io proverei a entrare però dicendo che so. Abbiamo il video. Ciao Ambra. Non so. In quel momento quanto erano sotto l'influsso ancora dell'abate. Perché comunque loro sono stati ai zappi contro di noi dopo che lui ha urlato prima di morire. Poi lui è morto, ora sono liberi. Non so se il loro modo di essere è diverso. Vabbè, adesso. Ora come ora noi siamo qua davanti ed erotti, dobbiamo entrare. No, nel senso che magari sono. Ci si può parlare, sono più senzienti ora. Non sono più delle bestie sotto il controllo di qualcun altro. Magari alcuni di loro sono un po' più intelligenti da tenere a bada il gruppo. Ma il Mister Sfortuna è giunto il momento di vedere. Io direi di dire che abbiamo il vino. Che il vino è tornato. Quanto pare, siamo una carvana di mercanti che reca il vino. E Smeralda dice: il nano, ciamoli tutti. Sono d'accordo con te, Smeralda. Perfetto, ciamoli tutti. Mi ricordo di averli visti quando ero all'abbazia. E non penso siano in grado da soli di organizzarsi in alcun modo. Però, come hai detto tu, può darsi che il modo con cui si sono comportati con voi era perché erano controllati dalla batte. Magari Strada ha mandato uno dei suoi a perché, a parte il golem di carne, che essere. Ovviamente come dice non il pensa ponico. Da solo, gli altri, comunque, anche lui era un mongrel. Cavolo, una persona in 3 ore? No. 7. Oh, più di 8. Siamo andati. è riposato, lavoro, riposato è tornato. Cioè, scusa, anche lui era un mongrel. Anche lui era un mongrel. Beh, appena ucciso il borgomastro in un'altra città, era una strada. Eh sì, però lì c'era la tizia, c'era già un. Infatti mi ci ha messo ben 8 ore. Lì è appena ammazzato, stanno dicendo abbiamo una città. Sì, cioè, in realtà strada c'era anche prima di voi, perché è passato l'altra sera. Vabbè, comunque. Tra l'altro l'abbiamo incontrato. Questo conte ha qualche segno particolare, sì, qualche marchio? È un conte, ha due canini, è, quando lo vedi è pallido. Si crede un po' pomposo, diciamo, però quando lo vedi lo riconosci. Da qualche parte qua c'è il suo stemma, se vuoi te lo faccio vedere. Esattamente. Cavalca un incubo? C'è chi cavalca un sogno. E chi okay, cavalca un quello incubo? Quello è il suo stemma. Con da corvo chi... con il castello. Ah, questo lo vede il mio personaggio. Te lo possono descrivere loro perché di sicuro l'hanno visto, ad esempio, sulla lettera. Sul che sì. Beh, avremo ancora la lettera. Può darsi, sì. Okay. E qualcuno di voi forse gli ha chiesto anche un qualcosa quando avete fatto l'alleanza. Però non so se lo volete far vedere. No. Chi è che c'era? Cioè io, Salla e Lazo, quindi io sostanzialmente. E se vuoi una descrizione fisica te lo descrivono come un uomo alto, bello e di purato e ben vestito con le righe. Dopo non so se ci vediamo con degli amici da Ambra o in giro, quindi sono in forza. Quindi vieni con lui? No. Vabbè, sì. Cioè nel senso non so che programma ho, ma sono con loro la sera. Vediamo se c'è un'immagine. Ok, carriera. Allora fuso illusione minore. Cos'è? Questa è la sua immagine. È strano. È un figo. Come fai a dire che è il cattivo? Gloria, gloria. Chissà, forse il fatto che non ci sia la sua riflessione nello specchio è ancora più figo, però c'è quella del bicchiere, cioè, e io questa perché il bicchiere non è un vampiro. Non l'ho visto. Cosa, il bicchiere non è un vampiro? Come fa? È un santo, un apostolo. Esatto. No, per tua fortuna non hai mai avuto la fortuna sfortuna di incontrarlo. Ho detto non sapevo chi era. Ok, quindi faccio un paio di tentativi con Minor Illusion di cercare di creare il suo stemma. No, ma perché di farlo? Perché vuoi miei? Cosa? Di ricreare il suo stemma chiedendo a loro. È così? Boh, figo. Sì, Te lo facciamo vedere, cazzo, lo vedi da te? Lo puoi riprodurre, certo. Allora, lo ricreo nella mia tunica. Okay. Il corpo romano mentre ti avvicini da una delle torri del la sua tunica ha riprodotto lo stemma di strada a lui. Bravo. Mentre ti avvicini da una delle torri ai fianchi del cancello, la tua tunica ha riprodotto lo stemma. Romagna di lui, perché? Lo dice. Cioè tutti a lei con Strad va bene, lui fa lo stemma di Strad perché anch'io la voglio. No, non mi piace perché adesso lui fa con lui quello che lui fa con lui. Sì. Perché lo stai facendo? Che cazzo fa? Così lui sarebbe stato con fastidio. Poi. E ti dicevo. No, peggio mio fratello. Ah, ok, bene, la competizione anche in questo, perfetto. Mentre ti avvicini, fai per avvicinarti al cancello, dalla torre parte una freccia che si conficca ai tuoi piedi, cioè nella terra, davanti ai cioè tuoi piedi. Non aveva ancora fatto niente, sono avvicinato. Si stava avvicinando. Fantastico. E una voce proveniente dal torrione dice: per ordine del nuovo borgomastro, nessuno è permesso l'ingresso in città, andatevene via. Salve amici miei! Però che caloroso benvenuto! Abbiamo l'uccisore di Borgomastri. La vostra ospitalità è molto leggendaria, a quanto pare. Portiamo vino. Degli vino, degli vino. Rifornimenti e provviste per aiutarvi alla ricostruzione della città. Sapete anche c'è stato un grosso incidente. È l'unica cosa che mi ha fatto. No, è vero, lo senso, però non è così. Ti giuro. È davvero così. C'è vino. Stato del fuoco. Vino. Per la porta. Ah, ma ditelo prima. Il tappeto rosso. Siamo con il conte. Uso il cantrip light per illuminare e farvi vedere il simbolo. Vedi? Sottolinea il fatto che abbiamo il vino, lascia un po' stare. È il conte che gli ha fatto venire. Con il vino. Dillo. Con il vino! Si sente da nascosto dentro il carro. Quindi 20. Ok. In silenzio, non per un po' di tempo non senti nessuna risposta. Tipo sono nemici, ma hanno il vino, come facciamo adesso? Il vino. E dopo qualche minuto, di questa sì, c'è come i tossici con una donna. C'è una. Cazzo ci aprono adesso. Si sente una voce diversa da quella di prima, di qualcun altro è salito sulla torre. E con un volume molto più chiaro, una voce imponente, e dice: per ordine del nuovo borgomastro nessuno può accedere alla città. Anche il vino è schippato. E non è attesa nessuna visita da parte dei emissari del conte in questo periodo. E ogni tentativo di spacciarsi per la casata reale è punito severamente dalla legge di questa terra. Andatevene o dovremo prendere provvedimenti. E com'è punito l'impedire alla casata reale, all'emissario della casata reale, di accedere al nostro luogo di diritto, ovvero a questa città? Vorrei controllare. Come osa? Che puoi lanciare una freccia? Chiedi chi è il nuovo borgomastro. Chiedi chi è il nuovo borgomastro. Vuoi non sapere chi è il nuovo borgomastro? Lui vuole sapere. Quest'uomo vuole sapere il nuovo borgomastro chi è. Sono io il nuovo borgomastro. Borgomastro. Sì, grazie. Conte Strad, cosa? Che si chiama? Conte Foncatta. Ah, ma quindi c'è previsto che ci sia un nuovo borgomastro dell'avventura? No. Allora come fai? Scusa, te l'avevi inventato? È un possibile sviluppo. Non è previsto, però. Non è così. Che visto come giochiamo noi fin dall'inizio, è super buono. Dopo la prima città che abbiamo superato. Come cazzo si chiama sto stronzo? Eccolo. Il corridoio. Non lo fa con la banana. Che sergente ce l'hanno? Molto meglio con la banana, onestamente. E allora deve farsi solo un nome, non ha un cognome. L'hai visto con FIFA, Ricri, che gli ha dovuto scrivere perché la faccia non era per niente uguale alla sua. Sì. Però gli ha scritto, scusate, e gliel'hanno aggiornato, gliel'hanno fatto. Perché mi sta chiamando Jack? Chi vuole rispondere? Rispondi. Sta chiamando te, rispondi. Pronto Jack? Non c'è sulle cose che inizi. Ciao Jack, come stai? Ma sei morto? No, perché? Fuoco. Ah! No, tranquillo Jack, non sono morto. Ci vuole ben altro. Ti avevo per niente sono bene, fa piacere. E tu stai bene? Guarda, sono la giornata. No, no. No. Ma è divertente parlare, vedere, sei in diretta. Sì. Ciao. Quindi ti puoi salutare, saluto. Ciao, Jack. Sì, saluto tutti, ovviamente. Ti salutano. Stai bene, boss? Anche tu. Ciao. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao. Grazie. Allora, adesso giù. Cari ragazzi. Ciao. Ciao. Adesso non ci si vede. Come stai? Bene. Siete tutti? Siete solo tre? Dove adesso? Questo abbiamo avuto nelle defezioni. Quattro, cioè, l'abbiamo acquistato. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. Buonasera. C'è anche Marcolino. Il medaglio dov'è? Vedete fuori, non era venuto fuori. Non è che sia andato lì, è dietro di te. Ecco, ah, hai visto dei kiwi particolari? Oh, possiamo grigliare. Può fare un po', esatto. Vedete che serve io, mamma? Ma è ancora un po' caldo. Sì, ah sì, attenzione. Ho visto, l'ho visto. Questa voce possente dice: sono io il nuovo borgomastro, Ilya Kreskov, figlio del barone Kreskov. Ecco, hai risposto. Sei felice? Chi è faccia da culo che mi ha rubato la faccia? Certo lui. Però la voce sembra diversa. Il bambino? Spettacolo. Visto che serviva. Accatta. Non siete benvenuti, andatevene prima. Scusa, che faccia aprire il fuoco. Non lo riconosci? Nessuno è benvenuto, quindi anche voi non siete benvenuti. Stupido. Questi cazzi. Ha maggior ragione se vi, se vi ha riconosciuto. Ma ha salvato sapete. La. Cioè, gli ha sì, insomma. È complicato. Gli ha salvato la vita. Però. No, salvato la vita. Non ha mangiato. Non credo che abbia finito neanche i suoi croccantini. Abbiamo il vino. Però se non funziona il vino, onestamente. La Ricken vi dice: lo conoscete? È la figlia del borgomastro. Ah. Come mai è diventato borgomastro? Cos'è successo al vecchio borgomastro? Ah no, mi sa che lo sapeva. Sì, da quel che aveva capito si era suicidato. Ma era un bambino. Avevo capito che non aveva eredi. Non aveva più eredi. L'aveva, poi non l'aveva. Poi la riaveva e poi non ha riavuto più. Posso provare a fare persuasione? Che cosa dici per provare a fare persuasione? Il vino. Ma con voi vi guardi così. Il vino potrebbe far diventare un borgomastro super amato. Era un ragazzino ed era con Bayern fino a qualche ora fa. Con Bayern? Come fai a sapere che era con Bayern? L'aveva visto. L'aveva visto. Lui l'aveva visto. Ah già, non ho detto che c'era Bayern. Però. Vabbè, lui l'ha appena detto lui però. Sì. E lui chiede, dove l'hai visto? Chi me lo chiede? Barretto. Ah, in una visione. che genere di visione? Cioè tu quando hai un'esperienza extracorporea. Ragazzi, non so se la conoscete, la torta di castagne, perché mia mamma viene dalla montagna, quindi tradizione vuole che mangiano queste cose. Ottimo. Wow. Spettacolo, grazie. Grazie. Come stai? Io adoro. È un po' meglio se hai preso. Ma tu giochi? Sì, no, sta cercando. Anzi, ha un ruolo fondamentale in questo momento. Anzi, avevamo bisogno di lui. Anzi, sarà il nostro nuovo fisso. Giocatore fisso. Per caso all'obitorio? Sì, quando ho fatto. Ma quando ve l'ho raccontato, ragazzi? Di Bayern, in questo momento cerchiamo di. Dettagli. Trovare un'alternativa. Beh, però. In un modo o nell'altro noi potremmo non badare se qualche bottiglia di vino finisse, non so, nell'ufficio del capomastro. Scusa, ma c'è un bambino che ha tolto il vino? bambino, no? Boh, non mi ricordo quanti anni avevo dato. Però almeno per chi l'ha incontrato. Però te l'ho anche sventrato. Non diresti più che è lo stesso di prima. Dallo tono di voce e dalle parole che usi. Ha dei pezzi di giù. Vabbè, niente, Rectavion dice si ho avuto una visione. Ho avuto una visione nel mattatoio. Vuoi parlarmene? Vuoi parlarmene? Per cercare di capire il significato. Ho avuto una visione, ho visto attraverso gli occhi di quel ragazzo, che sarebbero i miei occhi. Prima che tu mi. Una storia. Come scusa? In pratica sono stati usati pezzi del mio corpo per resuscitarlo. Ah. Perché era morto. Ho capito. Era morto. È andato di fatto. Era andato di fatto, era morto. Non ho detto che è morto cadendo, era morto. Cause naturali, era morto. No, era morto. Era morto. Era un bambino anziano e. Un'altra follia dell'abate. È vero, no. Morto l'abate. Dite di no. L'abate ha usato pezzi del mio corpo. Dite per di resuscitarlo. No. Ho capito. Quindi in un certo momento ho avuto questo collegamento dove ho visto tramite i suoi occhi, che sarebbero i miei. Che già. Come è chiaro. Anche se adesso con la rimuove maledizione non so come. Comunque. Non lo so neanche io, ma andiamo avanti. Che lui era al castello di Strand. Con Maer. Interessante. Ma noi non sapevamo di Byron, questa cosa puoi dirmi un po'. Sì. Che stava guardando gli oggetti. Cioè, quindi Byron era al bar. Gli erano stati lavorare. A strada. Giusto? Questa cosa non ti ricordi che oggetti erano? Sì, il suo diario. Era il tomo. Il tomo di Strad, cioè una cosa di biografia. Il diario di Strad. Questa cosa non ce l'avevi detta. Degli oggetti? No, sì. Gli oggetti. No, sì, che sì. Fosse Byron. Che ci fosse Byron? No, non è stato un momento. In fondo non era così importante, vero? Beh, adesso con mi stanno riaffiorando alcuni ricordi. Certo, sì. Anche Byron stava lavorando al bar. In questo momento me lo sto dicendo, sì. Comunque. Non mi fa. Già. Ok, però. Dicevi un libro, il libro di Strad, che era da Strad, ora poi, a questa città in mano. La bambola che gli siamo che avevo dato io. Ci crede sicuro. È lui un uomo di Strad. Sì. Vabbè, così sta. Ah, il medaglione. Sì, però antivampiro che ho preso. No, il invece era più hai detto che hai visto sì, anche all'inizio. Adesso però sappiamo che lui era da Strad, quindi sì, è l'ultima cosa da vista. Andargli a dire perché lo sguardo si spostava dagli oggetti a Simone Strad, potrebbe dire dici. Però già detto evidentemente non è però ci poteva stare, questa cosa è molto preoccupante. Dalla tua descrizione sembra come se questi elementi fossero degli ingredienti per fare un rituale. Non ne so molto purtroppo di questo genere di cose. Di Byron adesso. Perché di Byron? Era strada tutto il tempo. Dalle mie conoscenze, quello che mi viene in mente è che può significare una specie di risveglio, un rituale per un risveglio di un qualche potere sopito. E che il vostro chiamiamolo amico sì, anche se non mi piace troppo questo e che il vostro amico possa essere stato un elemento chiave nell'esecuzione nell'esecuzione di questo rituale e questo sopra. C'è un sandwich. Grazie, ci sto. C'è il sandwich. Grazie. Purtroppo con me non ho sufficiente conoscenza per decifrare che cosa vuole dire, ma il fatto che sia avvenuto nel castello di Strad, se la visione di Atanas corrisponde al vero, non lascia presagire niente di buono. Se posso. No! Farei un perception sì. Per capire la porta che abbiamo davanti rifatta più o meno quanto può reggere. Uno. Primo tiro della serata, ragazzi. Uno. No, ma che sono due. Vabbè, vabbè, quanto hai in perception, scusa? Piuttosto che sfondarla, scaliamo da una parte e poi l'apriamo. Vabbè, intanto io faccio un perception per capire, ho fatto uno comunque. Vabbè, ti sembra una porta massiccia in legno e... Quindi la mazzetta di vino non ha funzionato. Grande maestro, non stiamo quagliando però. Ti rispondono, non ci serve niente, andatevene via. Sì, fai una performance, inizia a strimpellare la tua cazzo di viola, fai qualcosa. Il vostro vino non lo voglio, l'unica cosa che avete, cosa vuoi da me? Prendi la tua cazzo di strumento e strimpella, fatti aprire le porte. Usa il dove dicevi di passare, scusa, di scalare. Qualcuno scala, ammazza le guardie, apre, si entra, si ammazzano tutti. Suona questa. Quante porte si aprono per me, non si aprono per voi. Quante sono alte le mura? Ci riservirebbero le ape. No, vabbè. Sarà al massimo 3 metri queste mura. No, sono abbastanza alte. Ha detto che sono altissime mura di crema, mi sei impallato. Vediamo se qua c'è scritto. Vabbè. Non è che le mura dei castelli fossero decine di metri. Vabbè, comunque si dovremmo vedere se c'è un punto dove sono sorvegliati. Abbiamo le corde, si scala. Ma si. Cioè, se ci sono loro comunque. Vabbè. O si fa una sì, una Smeralda magari potrebbe farci. A parte che Smeralda c'ha invisibilità superiore, no? Un sì. Gran battone. Infatti è potrebbe sparare lei. Me lo dici in faccia. No, vabbè, magari battone. Lo dico così. Quella diventa visibile, come dicevi. Cosa? Magari battona a quell'epoca non era un'offesa. È un mestiere rispettabile. Assolutamente. Più antico. Come altri. Magari lei ha un vantaggio perché ha una gamba sola e può piacere. È una cosa rara. Che schifo. Ah, ok. Non sei molto utile, te lo dico. In realtà l'idea che... Scusa, aveva sparato un 20, ma a quanto pare qui è inutile. Esatto. Adesso lui dirà il 20 era per convincere i mongrel ad andare a parlare con il borgomastro. Chiaro che se una cosa è difficile ha una CD molto alta. Però se è improbabile, allora è ancora più 10, le mura 20 piedi. Se 30 piedi sono 9 metri. 20 piedi non è così bassa. No, sono di... Allora, metterò la posizione di piedi. Non farò la storia. Ah, dimmelo, l'hai dato via, l'hai mandato via. Ma non l'ho mandato via io, sono stancato, basta. E se avessimo fuoco alla foresta? Sì, mi piace questa idea. Allora c'è niente. Questi giovincelli. Due reclute. Siamo 2 contro 2. È finito. 20 piedi sono 6 metri, li scaliamo 6 metri. È bassissimo. Sì, ma perché volete così tanto entrare in questa città? Quello non lo so, infatti. Boh. Sono d'accordo con te. Ormai siamo qui, dobbiamo passare la notte. Cioè, abbiamo perso la prima ora, rega, a parlare di questo, non vorrei dire. Esatto. Non lo so, non è una risposta. Io non ero d'accordo. No, è semplice, ci sarà un posto sicuro per passare la notte. Gli unici posti sicuri sono questi. E chiediamo se possiamo accamparci qua davanti. No, non entrare. In teoria, noi siamo venuti qua per evitare quello che può essere successo. Non ce l'abbiamo fatta. Teoria, però abbiamo comunque almeno uccisi 30 di quelle qua, riusciamo a prenderci il controllo. Dobbiamo trovare un modo per entrare, dai. Entriamo. Dai, prova a convincermi. Aspetta. Non ma dai, strimpella, usa le tue magie. Ma come puoi dire... Torniamo indietro. Aspetta un attimo, come puoi dire che è un posto sicuro che Strada ha mandato tranquillamente sto ragazzino a comandare? Sì. Che andiamo a comandare... Però è sicuro dai lupi mannari che girano per le strade? Che sono sicuramente meno pericolosi di Strad. Sì, c'è Strahd, allora qui esatto c'è. Ci sono i miei occhi. C'è Baby. Mandato da Strahd, sì. Che vuol dire che Strahd ha l'influsso qua dentro. Ci sono i miei messo occhi. Prendere in questo momento è una città quasi senza nessuno. Mi devo solo dire a Ribongrel che sono le sue guardie. Vabbè, è ovvio che non è semplice, però ormai tanto siamo qua. È notte e bisogna farlo. E perché volete riposare e non andare direttamente a uccidere i mannati? Sì, era quello che avevo proposto inizialmente, però in realtà a quanto pare Kretzk bisogna prenderla. Effettivamente è vero, è un problema se Kretzk è... Quindi ormai siamo qua. Abbiamo fatto quello, troviamo un modo per passare... Siamo sulla pista da ballo, bene, ammazziamo le persone. Sì, ma bisogna solo trovare un modo per entrare. Abbiamo Esmeralda che ci farà da cosa, solo che dobbiamo capire come sono protette, non possono essere tantissime le guardie, soprattutto. Quante sono le guardie? Gufo. Esatto, noi aspetta, torniamo indietro intanto. Poi se tu mandassi il gufo a vedere sui. Mi sembra di sì. Se mandi lungo il perimetro, magari vediamo se c'è un punto debole, cioè tipo una zona che non è sorvegliata. Io faccio un'investigation per capire dove hanno il punto modo migliore di sorvegliare. No, le guardie sono distribuite abbastanza omogeneamente. Vabbè, però è. E quindi tutto è sempre. Faccio un'investigation per capire qual è il punto migliore della città. Quante guardie c'erano sopra? Scusa, aspetta. 12? No, lì. Cioè, chiaro che da dove siete tu non vedi tutto il perimetro della. No, però lui se vada sul gufo a vedere. Vede che tutto il perimetro ci saranno sulle mura una ventina di guardie. Ah, tutti in modo. Minchia, tutti. Che palle. Vabbè, faccio un investigation per capire se c'è un punto migliore per approcciarsi. Arci gli affiniti gli incantesimi, sì. Chiedo se posso a lui col suo gufo se può darmi la certezza che è l'unica via d'ingresso questa. Ti sembra esattamente sorvegliato in maniera uniforme. Abbiamo la certezza che sia l'unico ingresso possibile della città. Senti tu. L'unica strada dado, che forse è dentro il muro. Tu. Tu come eri scappato con l'esmeralda? L'unica strada che dalla foresta che arriva è quella dove io siete voi. Io ho scappato dall'abbazia, ma poi ero uscito da. Però da dentro la città sempre. Sì. Tu che sei cioè, comparso dalle ombre. C'era un pertugio. Però sempre per andare in città. Però esatto. Non per uscire del tutto. Non niente. L'unico passaggio è quello. Sì, sei comparso davanti a noi sul carro. Esmeralda conosce magari qualche uscita? Forse sì. No. Per entrare e uscire in città, perché lei ha fatto ricordo scappare lui dall'abbazia, ma non è entrato comunque in città. Dall'abbazia. È entrato comunque in città. L'entrata e l'uscita è quella città di Patolo. Allora, Frenzy, forza superiore, dobbiamo entrare in quella città. Non ho altri modi per aiutarmi, il vino non lo vogliono. Sì, se non vogliono il vino è duro. Avete qualcos'altro per corromperli? Vi odiano. Siete prigionieri e dobbiamo portarli dentro. No. Sì, quello poteva aver senso. Provo a parlare con lui senza urlare, che non mi sente andare su. Ci siamo allontanati. Loro ti conoscono come umano o come sciacallo? Come? Tutte e due, in realtà. Quale di due odiano di più? L'umano è quello che l'ha ucciso, però. Esatto. L'umano ha ucciso il ragazzo che noi stiamo vedendo. Però non so se lo sa. Poteva essere una buona idea, ci poteva pensare prima. Non lo so, perché ha avuto l'operazione per cui è resuscitato, ma non sappiamo se si ricorda bene tutto, perché poi è stato con Strahd. Era una buona idea, però ormai c'è. No, chiedo a lui, ma non puoi provare. Ci hanno accidenti dirmi che avevano dei prigionieri. Non puoi, e immaginiamo che lui sia sotto l'influsso, ovviamente, di Strahd, non puoi provare a parlargli. Prova a chiedergli dove è Byron. Provare esatto a entrare. Chi è Byron? Al nostro amico, non fare danno. Ha ragione anche lui, anch'io me lo chiedo. Ha detto che la prossima volta che lo disturbiamo ci sparano addosso. Dai, proviamo a scalare da qualche parte. Andiamo a Esmeralda invisibile a scalare. Ragazzi, come siete diventati grandi? Siamo diventati vecchi. Vecchiati. Sì, va. Giulio, togli bene questo affare qui. Ah, vabbè, teniamolo pure. È decorativo. Togliete del tutto. Sì, ma non ci dava fastidio. Mettilo almeno a raccogliere, dà fastidio. Giusto. Ma dato da mangiare, sì, sì, sì, sì. Anche troppo. Stasera non dovete mangiare? No, no, no, di sicuro non entriamo tra poco. Sì. Lui rischia la vita, se non va a casa. Per Marconi devi mangiare? Dove? Prima o poi, non oggi? No, no, sì. Io non mangio neanche io oggi, perché mi hanno dato tanto da mangiare che non ne posso più. Scusa, non c'è lo scappato la città. Ah, non l'ho visto. Sì, ok, lo c'è. Ah, era pranzo. Ci sta. Ma cazzo, le cotolette di ieri? È il fuso orario. Il fuso orario. Allora niente, proviamo a entrare, non proviamo più a parlarvi. No. Sì, allora, vi allontanate, Smeraldo dice, quindi qual è il piano? Che tu scali le rura invisibile e ci crei una breccia di archivista, con gentilezza. In che senso vi crea una breccia, purtroppo? Anche se sono molto forte, questo è vero, non riesco a spaccare le mura a metà. No, tu basta che sali su e uccidi un Bogren. E poi lo scaliamo da quel lato lì. E una volta scalato sopra, qual è il tuo piano? Bruciamoci. Niente. Uccidiamo tutti i Vongrel delle mura, poi scendiamo e prendiamo la città. Fermi tutti, ci chiariamo subito. Siamo voluti tornare qua perché dovevamo prendere Cresca, adesso la prendiamo, quindi quindi tu, ma con la violenza, sarebbe il caso di non andare a suicidio. Allora dimmi la tua idea. Ma dici low good. Ho un'idea io, andiamo a contrimannare. Dimmi la tua idea. Di notte. La mia idea è che ci servono più informazioni. Non sappiamo che cosa c'è là dentro. Spero ci serve che qualcuno entri a cercare queste informazioni. Quindi come vuoi. No, tanto ormai dimmi come vuoi ottenere queste informazioni. Se volete vi posso infiltrare e cercare di capire qual è la situazione. Sì, è quello che vogliamo. Che tu vada lì. Voi volevate uccidere le guardie e prendere tutti in piedi. Perché volevamo esserci anche noi, ma se tu vuoi fare tutto tu, va bene. Se volete questo servizio ve lo posso fornire facilmente. Posto! Era una cosa diversa rispetto a quello che mi hai chiesto. Vabbè, ok, faccio sapere, però il problema è dopo cos'è, torni fuori? Non è un problema per me. Faccio sapere quella situazione. Se non è un problema, bene. Mi servirà del tempo, però, non riuscirò a farlo in tempo breve. Quanto breve? Almeno do una giornata mi serve. Il nostro problema è passare la notte fuori. Forse siete più chiaro, vai, ammazza la guardia, prende il giro. Abbiamo una mappa di Cresco. Non so. Non l'ho stampata. Ma io impazzisco. Siamo qui per entrare la notte al sicuro. Bene ragazzi, state fuori, ma dove loro fanno noi dobbiamo andare lì per forza, perché sennò non sapevano, possiamo farla forza fuori, poi arriviamo lì però ho bisogno di una giornata. Allora per investigare senza essere scoperti richiede tempo. Ammazzare adesso no, scusa, per te ho capito che tu il problema è che non è un problema per te salire e infiltrarti. È un gioco da ragazzi per me. Il problema è che sia un problema uccidere un paio di mongre. Nemmeno, il problema è quello che c'è dentro quelle mura. Proviamo a scalare. Però se tu uccidi un paio di. Aspetta Giulio, un secondo. Se tu uccidi un paio di mongre, ci crei una parte dove noi riusciamo a salire senza magari farci notare. E poi se le cose vanno male, come facciamo ad uscire? E poi siamo dentro. È quello il problema. Che poi non possiamo più uscire. Scaliamo dall'abbazia. Siamo chiusi dentro, in effetti. Dopo scaliamo giù. Sì, però siamo chiusi dentro, quello che dice lei. Se quello che c'è dentro è troppo forte per essere combattuto, siamo in trappola. Va bene, allora passiamo la notte qua fuori. No, a questo punto torniamo alla vigna a questo punto. Tornate. È notte. Sbrigiamoci, sbrigatevi. Io posso passarla dentro. Tanto. Siete pronti all'esplosione di mezzo? Io impazzisco, però a questo punto entriamo. Io impazzisco, però capisci che mi state prendendo per il culo. No, comunque lì dentro di sicuro non avrai modo di riposarti, su questo spero siamo ok, nel senso, io ho detto, la prima cosa che ho detto però è stata: abbiamo bisogno di riposo per poter affrontare. Ma bibi bu crezz, adesso dove siamo? Possiamo aspettare la giornata? Però ragazzi, decidetevi. Le informazioni del nostro possesso sono cambiate abbastanza radicalmente, sarei d'accordo con questo. La situazione è praticamente la medesima. Cioè, solo che c'è un ragazzino, però che ci fosse rimangere, lo sapevo. No, ok, sì, cioè, nel senso, se era un problema allora fare dei combattimenti, sì, allora che cazzo siamo venuti qua? Cioè, sì, è cambiata, nel senso che ci potrebbero essere delle cose in più, vabbè. Esatto, non è un dettaglio da poco. Ok, però era un'eventualità che sapevamo. Quindi che senso ha avuto a venire qua? Siamo stata la puttanata. Siamo convinti a entrare ormai che siamo qua. È questo che dico, cioè ormai l'abbiamo fatta sta roba, finiamola. Beh ragazzi, se proprio volete forse qualcosa posso tirarlo fuori. Cosa puoi tirare fuori? Stupido Barnock Warlock. Che è l'incantesimo. Potrebbero dormire improvvisamente. Potrebbe essere utile. Ok, quindi se qualcuno facesse un diversivo da una parte e qualcun altro dall'altra, potrebbe far dormire un paio di guardie distratte. Beh sì, se tu la fai, se noi saliamo, tu fai dormire le guardie che sono sul lato, lei le segue e noi saliamo. E chi distrae? No, anche senza distrarre. Lei sa. Tanto se questo è il perimetro. Lei sale invisibile. Lo fai da un lato. Sì, ma se sono a letto le guardie possiamo salire anche noi direttamente. Certo, però tanto vale che lei salga intanto, così tu le fai addormentare. Lavora. Ma è venuto però? No. Aveva dei pazienti. Aveva una visita di 3 mesi. Ma sono che veniva. Lo sono per più o meno 2 su ogni spezzone, se ho capito. Beh, sono 20 omogeneamente distribuiti attorno. Vabbè, se cioè un tratto più o meno visibile di mura, catta quante guardie prevede? Vuol dire che sono di lunghezze diverse. Ma scusa, approcciamoci a questi lati. Vabbè, dove scegli i un lati lato, vuol dire che se scaliamo prima che sono dritti, sono 200 metri in montagna. No, tanto. Lì è no, vai su una parte un po' più fattibile, giù. Va bene. Noi siamo qua, I suppose. Ma fai conto, ci sono tanti segmenti, no? Fai conto che ci sia una guardia in un segmento che si sposta verso quello dopo, sì. Quindi è vuoto, e poi nel segmento dopo. Questo lato qua tu dicevi, qua dal laghetto, l'S4, sì. Che è più corto. No, alla fine non è tanto. Era la scalata. È solo un po' più sopra. Pensavo di approcciarsi il, qua. Il problema è l'essere sgamati a distanza, però è buio, secondo me riusciamo ad avvicinarci più o meno alle mura senza farci vedere. Sì. Secondo escursione comunque c'è 60 metri, cioè 60 piedi. Allora, io farei così, arriverei in prossimità, manderei Ciccia e Smeralda intanto a salire sopra. E noi ci diamo un determinato tempo. Scusa, chiediamo a Esmeralda di fare un diversivo dentro la città. Ma dopo, intanto io arriverei sulle mura, capito? Mentre noi saliamo, lei, cioè lei entra, va per preparare il diversivo, intanto noi saliamo. Noi intanto così possiamo. Quando lei avrà lei inventato qualcosa, noi siamo lì su. Che ne so, un incendio. Sì, ma tanto vale tanto salire tu. Sì, sì. Perché se non c'è se c'è un problema prima, dopo lei è dentro la città che fa il diversivo e noi no, magari. Pazienza. No, ma noi facciamo per entrare. Sì, sì. Noi però si è proposta lei di entrare da sì, sola. Sì, sì, sì, però ascoltate, per secondo me non è così drammatico farlo. Cioè lei va su, invisibile, è sopra. Ok. Arriviamo lì. Lui mette 2 guardie o 3, quelle che sì. Ci sono lì. E le mette a dormire. Lei ammazza le guardie, magari. Queste non così mute. Perché se lei ovviamente si mette a ammazzarle, magari queste parlano. Che dormono, possiamo ucciderle tutte. Esatto, le finisce e ok, e ci dà la possibilità. Noi saliamo su. Lei intanto va a fare un po' di passivo, eh sì, però comunque con lei lì deve abbassarci le guardie, così noi saliamo e lo sono. Sì, sì, l'idea era quella, mentre lei scende per fare il diversivo, noi siamo già lì. Esatto. Se poi non vuoi ammazzare le guardie, possiamo ammazzare anche noi. Sì, però o evitare che arrivi, cioè noi siamo, o deve evitare che arrivi un altro monger, magari ce ne riesce a svegliare. Nel momento in cui lei fa il diversivo, noi siamo già su, però questo devo dire. Ah, lì, allora ci siete. Sì, cioè io vorrei che quando arriviamo su, allora quel punto. Allora lei fa partire. Certo, sì, sì, quella era l'idea. C'è Van Richten, che sì, un incendio, un'esplosione, un rumore forte. C'è anche Kevin. E c'è anche Kevin, Casimir. Chi volete che salga le mura? Beh, allora prima Esmeralda da invisibile mentre tu fai sonno. Dopo fa sonno quando lei è su. E per sapere se si è su ci dice lei quanto ci mette. Che dopo? Così lei è già su. Non rischio di far sonno su Esmeralda. Non è d'aria, scusa, è un bersaglio. Esatto. Non è bersaglio. Solo quanto deve essere a distanza il bersaglio. Vabbè che tu vedi il gufo, quindi forse con lui c'è. 90 piedi. 90 piedi, ok. Range 90 piedi, ed è un raggio di 20 piedi, quindi magari se ma è si alza di loro le guardie fa venire in un punto. No. E attira. Ed è a? Si attira delle guardie in un punto. Lei. Sì, da invisibile fa un rumore così per terra, le due guardie vanno lì a vedere cos'è e lui li addormenta. Così lei è lì pronta a finire. Beh, in questo modo abbiamo anche il diciamo il segnale, tra virgolette, che lei è su. Sì. Ci sta. Esatto, lei arriva su, fa un rumore, anche solo battere la gamba di legno. E avvicinare per le no, vabbè, non è un problema. Esmeralda, cioè, perché tanto lui mette a dormire 5 di 8. Posso farlo a secondo livello? Tot di 8 di dà di vita. Loro hanno circa una ventina, 25, 26 punti ferita. Quindi Esmeralda non potrà mai essere colpita da solo. Anche se lo fa in mezzo lei, su di lei. Perché ne ha 70, okay. 80, non ricordo quanti ne ha. Certo. Deve sapere. Quindi riesce a metterle forse a dormire due direi. Sì. No, 5 di 8. Direi 2. Non te ne fai? Allora io non farei. Forse 2. Allora non farei il massimo 7. Io non farei che 7 di 8. 7 di 8? Al massimo. 7 di 8. Mediamente 2. 7 di 8, 2 sì, forse. Beh, allora non farei fare Smeralda rumore. Perché se ne arrivano 3. Ma quante ce ne sono lì? Adesso andiamo a vedere. Intanto andiamo lì e vediamo come la situa. Andiamo in quel lato lì. Col gufo guardiamo quante guardie ci sono. Ma intanto col gufo possiamo un attimo vedere quando ci mettono a fare il giro. Ah, sì. Mentre ci muoviamo, sì. Vedete cioè, la ronda che fanno. E appunto se adesso non riesco più a utilizzare quello, però ci sono delle... fate conto, alle mura ci sono una torretta ogni... 50 piedi mm-hmm. E è fatto in modo in cui quando fanno il giro in un segmento tra due torrette c'è una guardia che passa, poi c'è il segmento successivo che fa avanti e indietro o fanno proprio no, il giro? Fanno tutto il giro, okay. Quindi poi sì, una volta che arrivano in fondo tornano indietro, quindi ogni tanto si scambiano però nel, diciamo, nel tratto lungo c'hai una guardia che fa un segmento vuoto, guardia che fa il segmento vuoto in modo da come ne pattugliano uno arrivano su quello okay, che prima era spattugliato. Quindi in realtà come distanza lui riesce a colpirne una, non due. Sì, deve essere veloce. Puoi colpirne due nel momento in cui una si arriva in fondo, esatto, e torna indietro. Allora cerchiamo quel punto lì. Il sì. Punto è dove in fondo alle mura. In fondo, così ne prendi in fondo alle mura. O, okay, o qua allora, o dalla S4, come dicevamo noi, quindi o dall'altra parte. No, S4, confermiamo il punto. Non so perché volete far questo, anche se non sono più cacciare, ma sono con te. Però ormai siamo a quanto pare, va bene. Guarda, non mi dispiace l'idea di avere il controllo della città, quindi posso anche venire con voi in questo caso. Non ti dispiace? Avere il controllo della città. Ah, ok. Quindi fai finta che sia mi prendo i 10 minuti per fare un po' il discorsetto ispiratorio. Ah, vi incoraggio pure, che carino. Quindi Mettiamoci dentro. Dai, domani. E mal che vada, vi lascerò a spiegarvela da sotto. Ora sì che sono incoraggiato, molto incoraggiato. E prendete 11 da vita temporanea, 11 HP temporanei a testa. Solo incoraggiato. Caccia via. Anche il mio buffo. Possiamo fare in questo modo, diceva Ritten. Cerchiamo una casa con dentro poche persone all'interno delle mura e nascondiamoci lì. E lì potremo riposare e il giorno dopo avere più forze per affrontare quello che ci sarà. Sì, è un enorme effetto suicidio ucciderle, quindi. Ma basta una casa. No, anche tenerle in ostaggio. Preferirei non ucciderle. Le poche persone si fanno. Le guardie, no, è importante. No, lui dice le persone, lui dice le guardie su. Le guardie, adesso, c'è quello, come dice il vostro amico, che sono quelle bestie senza Dio, possiamo tranquillamente disporle se riusciamo a non farci notare. Però il discorso è che poi che ci siano delle guardie morte sopra, si scoprirà. Le nascondiamo, lasciamo solo addormentate. I cadaveri vanno. Mentre dormire sono addormentate, vabbè. Vediamo cosa riusciamo a fare. Però lasciamole addormentate. Però sceglielo subito. È rilevante. Questa cosa è rilevante. Se vuoi nasconderti e basta, e le addormentiamo, è buona. Se invece vogliamo andare e fare il colpo adesso. Allora proviamo a passare più inosservati possibile. Per me ci può stare a tendere l'imboscata domattina da dentro. Perché ancora di più effetto sorpresa comunque. Certo. No, e almeno riusciremo a riposare. Adesso sono leggermente allerta comunque dal fatto che ci siamo presentati col carro e tutto. Lasciamo il carretto. Il figlio, il nuovo borgomastro. Sì, quello adesso lo andrò a nascondere nella foresta. Secondo me sì, possiamo fare così. Dai. Ma non ci riusciremo però. Sì, loro sì, tu no. Cioè, in realtà io non tantissimo, ma il druido è senza incantesimi. E il paladino pure. Non può smaitare. Non può smaitare. No, riposare, sì. Se riusciamo da dentro non è brutta il pomeriggio, dai, questo ci può stare. Io è dall'inizio che dico che dobbiamo riposare. Sono tipo 4 sessioni in un circo. Poi normalmente vengo ignorato, tipo no. Tu volevi riposare, loro volevano entrare. Abbiamo trovato poi l'accordo, riposiamo dentro. Poi siamo arrivati lì. Ma adesso non possiamo entrare. Dice, ma come? Allora riposiamo. Non possiamo riposare. Allora cosa facciamo? Non possiamo. Ma cosa? No, Sveralda non ti ha detto così. Sveralda ha detto, io vado dentro, voi state fuori a passare la notte. Ma veramente. No, questo piano non ci può piacere. Dai. Yak mi ha mandato questo screen. Che uomo. Grazie Yak che mi rendi partecipe. Poverino Malmino di te. Ok, allora il piano è seguente. Quindi, vediamo se lo dico bene. Mentre Smeralda va su, da invisibile ovviamente, lui casta sonno su due guardie, lei saliamo tutti a questo punto. Saliamo tutti. A questo punto, scusa, saliamo tutti. Tanto non serve più che lei vada con anticipo. In realtà può essere una buona sicurezza. Ma tanto non la vediamo. Metti che lui magari arriva un'altra guardia nel frattempo e sveglia le altre, al diretto da lei che. Va bene, sì. Va bene. Allora facciamo andare avanti lei. Lui casta sonno, lei passa le guardie senza dover per forza ucciderle, per lasciare stare. Poi, se lei ci dà l'ok in qualche modo. Prende qualcosa, insomma, vi butto una corda. Sì. Da anche due magari, dato che siete una truppa più o meno. Esatto. Saliamo anche noi e a quel punto cerchiamo di, ricordandoci il più possibile com'è fatta la città, entrare in casa e nasconderci lì, prendendo in ostaggio le persone che sono dentro. Agiamo. Okay. Vai. Agiamo. Vi appostate e attendete il favore delle tenebre. Era l'imbronire, adesso è proprio Giulia, peste. Dopo avete nascosto la. Mi dispiace, lo so, mi è dispiaciuto, però ho voluto togliere la maledizione del corvo. Purtroppo rimuove maledizione e rimuove tutte le maledizioni. Quindi Esmeralda Diventa invisibile, quanto dura l'invisibilità superiore? Sta fino a un'ora. Un'ora, sì. Come quella normale. Dura fino a un minuto. Solo quindi, fino a un minuto? Sì. Allora sì, deve essere vero. E invece la tua invisibilità noi serve solo che arriva su e ci dà l'ok per salire, dopo siamo in gruppo. E il sonno quanto dura? Capacità speciale della... No, alla fine non ho preso quello. Ah, giusto, il sonno quanto dura? Perché ho preso quello... Come si chiama? Slip. Sì. Tanto smeraldo non interessa, che arrivi su e ci dà l'ok per salire. Una volta che siamo saliti siamo in gruppo, perciò anche se non è più invisibile ci cambia poco. Io ho il libro degli antichi segreti e Agonizing. Cioè, sicuramente per lei sarebbe meglio essere invisibile, però in realtà è comodo. Anche il sonno dura un minuto. No, capiamo che è comodo. Un minuto, cioè, per un minuto anche sonno. No, noi saliamo, se ci beccano buonanotte, letteralmente dobbiamo salire. Ah, li puoi far riaddormentare? In quel senso? No, vabbè. Però si ricordano di averci visto. Saliamo in un minuto, dai. Quindi ci cercherebbero. Magari hanno sognato tutti il tempo. Forse è meglio prenderlo e buttarlo giù. Dice, no. Ho imparato questa tecnica di camuffamento per cacciare certe cose. E possiamo cercare di mimetizzarci meglio con l'erba, il fogliame e il fango per terra, cospargendoci. Ah, per arrivare sotto, dici? Sì, va così. No, direi che sopra a questo punto forse conviene uccidere la guardia e buttarla giù. E si butta nel lago? Fa molto più rumore, secondo me. Non si butta direttamente nel lago da sopra, si prende giù e si butta nel lago. Però può essere i rischi di essere peccato. Dobbiamo legargli un peso, però. Lo sventro. E se lo buttiamo giù nel muro, non te lo ritrovo nel prossimo giorno dopo. Sembra lo buttare giù. No. Non senti il tonfo. Beh, più qui del... Sì, più dell'acqua lo senti, vero? Sì, ma nell'acqua nera. Sì, io nel lago dice di portiamo. Era il tuffo bomba! Però. Ma perché lo vuoi uccidere per forza? Quindi non sei un problema sui tempi. Il minuto è. Sono 6 piedi di scalata, vuol dire 1, 2, 3, 4 e sei arrivato. Sì. No, sono 6 metri. Non è il problema di arrivare su, non è il problema di arrivare su, non ci vuole. Non tanto. È il problema di arrivare su, il problema è di arrivare da su, dileguarsi. Che noi lo sappiamo. Vabbè, tanto lo sappiamo come è fatto, sì. Più o meno, cioè lo può però guardare. Tanto che la guardia sia morta o no, comunque ci vedono anche le altre dopo quando ci entriamo in città, anche le persone in città, perciò quella guardia rimane meno rilevante forse. Però sì, però il problema è. Però come dicevi tu, se scoprono la guardia morta, dopo pattugliano, cioè. Cioè noi ci sarà un intervallo di tempo che riusciamo prima che arrivi l'altra guardia, ok? Noi in quell'intervallo di tempo lì dobbiamo andarcene. Per cui in realtà secondo me è meno sospetto paradossalmente se l'altra guardia arriva e non trova niente più che se trova la guardia addormentata. Paradossalmente. Quindi a quel punto probabilmente conviene ucciderla. No, no, aspetta, l'altra guardia non trova mai niente. Perché a caso, parte il momento di incrocio, loro fanno tutto il giro da soli. Quindi in realtà se non becchiamo al momento dell'incrocio che sparisca una guardia ci mettono un po' d'accordo. Però poi ovviamente noi lasciamo la guardia lì. Posso usare questo? Non gliela lasciamo. Sì, sì, la ammazziamo e la buttiamo giù. Capito cosa intendi? Sì, questo sì, che sì. Voglio dire. Allora sì. Più è che il problema è che noi arriviamo su. Cioè se il conto sarebbe 5 minuti. Allora 5 minuti ce la fai. Un minuto è pochissimo. Quindi riesci a arrivare su ma non riesci a dire guardia. Metti 20-30 secondi per arrivare giù. La sassare sì, giù. Considera che rischi di generare in realtà più allerta di quella che. Sì, vabbè, cioè, una guardia stupida si non è. Non sono perché sono di 120 piedi. Perché poi una volta che sono allertate tutte rischi di bruciare l'effetto sorpresa. Cioè, nel momento in cui sanno che c'è qualcosa. Così puzza da ubriaco. Cioè, il video dove l'avrei. È un cane. Vabbè. Allora vi avvicinate sotto le mura. Cioè, poi in realtà mentre vedete Smeralda sta scalando può iniziare qualcun altro a scalare. Cioè lei siccome va su e ammazza quella guardia. Intanto, siamo, su, sì. Intanto stiamo già salendo noi però. Sì, aspettiamo che lei abbia finito, capito? Cioè così, vabbè sì. Allora sondalo e però si deve mandare le corde lei, capito? Io posso scalare anche senza corde. Posso provarci, io fare così, fallo andare su invisibile sondo, corde, ma scala, intanto la mi sa che ce l'abbiamo, le, cioè possiamo andare su con anche tipo cordata, perché ce l'abbiamo gli strumenti, yes, per sì, però ci mettiamo velo se ne cerca l'altra corda, sì. Sì, secondo me come dai, dai, fai così, fai così. Scalare, però vogliamo prendere allora non più l'incrocio di due guardie, ma una sola. Solo una vogliamo. Ok, smeralda, quindi do, che sia come scalare. No, smeralda no, però appunto se tu normalmente devi scalare un muro di pietra. Ma se io faccio athletics, far sì, okay, piedi. Tu sì. Una è 60 normale piedi il muro. No, ma dico io. Quanto è alto il muro? Il muro alto 20 piedi. 20 piedi. Ah, ok, allora posso usare i mage hand per portare sulla corda. Sì, anche. Vai, facciamo, dai. Vedi. Okay, quindi incrociamo una sola guardia, possibilmente esatto, quando ha cominciato il giro di ritorno. Loro si scambiano, quindi si salutano, e la prima se ne va e la seconda va a finire il giro. Esmeralda è arrivata a metà muro e diventa invisibile. Cosa fate? Io mando su la mia mano magica con una corda. Ok. La guardia arriva in fondo e poi comincia per tornare indietro. Devi fare slip. Subito, vabbè, faccio slip sulla guardia. La vedo. Lancio slip, sì, la vedo. Mi servono 5 di 8. Che ce ne sono qua? Quindi una guardia sola. Sì, niente. Sì, è meglio una, così la se ne dobbiamo. Anzi, quindi ne uso solo 5. Ah, vuoi che ne usi su 7? Ah, scusa, 5. Vabbè, se avete detto che circa 20 di vita. Buono. Sparato. 3. Ho fatto 3 8. Tutti a 2 8. Dotlang. 2 8 2 6. Che è il rumore di quello che aveva addosso la guardia, io che mi fiondo a scalare. Cade per terra. Direi tutti fiondati a scalare. Sì, esatto. E vedete la corda che prima lui aveva portato su con Mage Hand, che viene presa da Esmeralda, sì, viene assicurata al bastione. Vai. E viene gettata giù, in più ne ha un'altra lei con sé, e poi sentite il rumore della sua ascia e della sua spada che si conficcano nella carne del malcapitato, e poi lo butta giù. No, a quel punto è una scomoda. A quel punto no. Cosa sta facendo? Dei Peaky Blinders? Ve l'ho cazzo detto. Quindi cosa fa con l'istintore? Credo di sì. Quello non fa parte del telefilm. Vabbè, siamo va su. Bene. Allora dice Giulio che viene nel lago. Fatemi qualche prova di scalare, dai. Nel lago? Sì. Athletics. Cioè, sì. 7, 13. 12. Dei grandi più ho un più 7 anch'io. Anch'io ho più 7, 14 12, 13, 14 esagerito. Athletics, cioè decidi tu in che modo scalare. Okay, allora però anche okay. 11, 12, 13, 14 nessuno ha tirato più di 6 mi sa. No, tu quanto hai tirato? Cioè, con 7, la corda di 7. Dovremmo aver vantaggio, no? No, avete una difficoltà più bassa. Ok. Ah, posso usare Guidance? Certo. Che tira dei dadi, Kat? Non siete soli. Ah, le altre guardie possono. Ah, no, c'è per noi. C'è una truppa praticamente. Sì, sì. Se più di metà del gruppo passa, sì, quella è un'altra cosa. È la prova di gruppo. Sarà per lo stealth. Beh, lei intanto deve abbassare la guardia, però. Scusa, ti ha fatto già prova? Sì, fatto meglio, insomma. Come? Riesco a dire questo di qua. Con il boss. Ah, quindi 4. Ok, quindi sono 9, sono 15. Tanto tu da bardo puoi anche dare l'ispirazione ai tuoi amici. Sì, ma spesso abusiamo della parola amici. ok, siete su, di fronte a voi c'è Esmeralda che ha trafitto questo povero creatura che scoprite essere un mongrel. Prendo il mongrel. Ok, e per terra ci sono le macchie del suo sangue. Vabbè, non si mette a pulire, che cosa l'ha squartato? Cazzo, no, fa Esmeralda? Sì, di solito uccidi qualcuno. Io vado per non farmi notare. Sì, secondo il suo piano, questo. Ehi, è il vostro piano. Ragazzi, ho un altro piano. Vabbè, sentirlo? Le asciughiamo, possiamo riuscire a pulire. Potete riuscire a pulire. Posso, facciamo. Con cosa asciughi? Pezzo di la mia tunica, che vabbè. Cazzo... Non so, quello che vuoi. Propongo una cosa diversa, prima o poi questa guardia dovrà incontrare l'altra guardia, quindi... Tanto vale... No, sì, perché magari così... ma se non la lasci lì... No, non è semplicemente caduta... Sfiga. No, lui dice di metterla nell'acqua. Ma basta, con stacco, buttala giù! Ah, io l'ho piatto sulla schiena, la vuoi buttare. Ah, vabbè, vai intanto. Possiamo percorrere le mura e ripulirla da tutte le guardie. Di fianco a voi c'è... Inizialmente, però l'ho detto io. No, ma adesso possiamo farlo in modo da non venire scoperti. Era quello che volevo quanto, fare quanti anch'io. Quanti slippai, scusa? No, io posso diventare una parte. Adesso. Ah, vabbè, questo... E lui? E noi stiamo dietro di lui. No, noi andiamo ad ascondere. Voi nascondete e lui prende il suo posto per non destare sospetti. Questo ci sta. Quanto puoi tenere questo? Però poi a un certo punto. Vabbè, finito il giro di nuovo. Vabbè, scende bene. No, un giro. Però qua diamo molto tempo nel vedere dove ci nascondiamo. Intanto lui. Cioè, però la guardia dobbiamo intanto il, suo, intanto il suo gufo vede cosa facciamo. Noi. Allora vendiamoci un punto di ritrovo. Beh, per no, la potete no, tenere viene, il suo gufo e lui sa dove siete. Viene ah, sì, da noi col gufo. Sì. Sapendo la storia dei corvi, non mi fido troppo a lasciarmi un gufo. Di questo è vabbè, stai in alto a guardare cosa facciamo, devi lasciarlo. No, no, non ho mai ucciso un gufo. Vabbè, se preferisci, questo, ci diamo un punto di ritrovo. Dov'è che la mappa di ritrovo? No, perché non possiamo stare fuori. Dov'è? Ah, vabbè, posso sempre cercare dove vengono gli incendi. No, no, no. Dammi la mappa di tre. Arrivo, c'era qua che non è sposto. Vabbè, ma ci. Allora, lascia il gufo non a me. Ah, credevo fosse scuola sul foglio. Non lo scherzo, non lo stampato. E beh, becchiamoci da. No, e comunque scusa, io so che questo gufo è il suo famiglio, non ho mai sparato al pipistrello. Vabbè, tra l'altro giusto, è un gufo scheletrico. Devi sapere che in questa regione tutte le incantesimi hanno delle sembianze più lugubri, quindi tutti quelli di evocazione evocano quello che dicono. Però in aggiunta gli animali e le cose evocate sono non morte. Come fa una. Cioè è non morto, non dà importanza, c'è la magia. I draghi non morti va. Volano, ma. Secondo me invece che più che punto ti ritrovo domani ci raggiunge di nuovo. Ci raggiunge col gufo. Ok, do il gufo al paladino. Hai un gufo al paladino. Ah! No, pazzo! Sì, vero, finale. Ah. No, va bene. Di fianco a voi c'è un torrione. Dove. Però comunque io la macchia la pulisco al volo. Sì. Ok, uso disguise self e vado. E diventi uno di quelli. Ti metto un po' di sangue sulla tua tunica. Okay. Sotto. Perché così ha lo stesso odore. Perché disguise fa l'aspetto, ma questi. Vabbè, posso dare la. Se si vuole. Okay. Quindi potete usare il bardo per pulire le macchie di sangue così prende. No, sì, cioè, la cosa si rotola del sangue. Ah, vabbè, sì. Non è che io lo ricoprivo di sangue, semplicemente io. Benvenuto nella compagnia. È rituale, non è rituale di accettazione. Sì, esatto. Via la prossima guardia, perché puzzi di sangue? Ok. Di fianco a voi c'è il torrione e una porta in legno massiccio chiusa. Che insomma è quello che porta al. Sotto. Alle scale che scendono. La porta è chiusa. Smeralda. Apri la porta. È chiusa. Per me è facilissimo. possiamo calarci con le corde all'altro lato. E poi come togliamo le corde? Le toglie lui. Adesso. Va bene. Quindi scendete giù e tu togli le corde e voi ve le riprendete. Uso message per tenermi in contatto con voi. Ok. Con chi lo fai? Con il paladino. L'unico di cui ci si può fidare. Messaggio, ignora. Oh, è Iac. Sono un pack. Ok. E tu inizi a fare la ronda e incontri la guardia successiva. E vi scambiate un saluto e vedi che sono come la creatura che avete visto, sono questi... accozzaglie di umanoidi e parti di animali quasi randomiche. Cioè, appunto, quelli che hanno delle facce da canidi, chi invece tipo delle scaglie, chi addirittura delle fattezze di uccelli, o qualcuno vedi addirittura raramente, ma ci sono, che hanno delle ali di pipistrello, ancora più raramente, ma ci sono, qualcuno che ha addirittura due teste. Quello che abbiamo ucciso non aveva ali. Quello che avete ucciso? Non aveva ali. No, non aveva. La parte sotto come una capra, sopra le corna, un po' basso cicciottello. Una filottetta. Qualcuno probabilmente c'è. Tanto. Devo mi serve un tablet nuovo. Va bene. Ma te lo prendeva insieme a punto. Ok, scendete. No, scendete, sì, scendete. Siamo sul lago. Siete sul lago, esatto. Cioè, finiamo intorno al lago c'è il gazebo che avevate distrutto. Oh, guarda. L'hanno ricostruito? No, quello non hanno avuto tempo, avevano altro da ricostruire. Io lego, poi... lego mani e piedi del cadavere a delle mani, cioè qualche roccia, qualcosa. Qualcosa che non galleggi. In realtà c'è del gran legno qui di rocce. Vabbè, prendo del legno, lo conficco, lo impalo sul sfondale. Cosa? Non è proprio semplice e veloce da fare questa cosa. Vabbè, c'è del legno massiccio, non il ramo che galleggia. E ci sono tipo i tronchi tagliati per o per la legna o per perché vuole usarlo per fare delle assi per farlo fondare, ma c'è solo del legno. C'è una cosa che solo del legno. No, aspetta, lui ha un'armatura addosso. Sì. Vabbè, è sprofondo. Beh, non se l'ha messa addosso lui. No, ha fatto no, lui. No, è fatto di ok. Quindi mettete il cadavere nell'acqua e quello va a fondo. E gli vicino gli apro la pancia. Ok. Così. E i gas non si accumulano. Però prima o poi risalirà, forse. Prima o poi forse. No, cioè, nel senso, mi interessa che stia giù per le prossime ore, non per per sempre. E passati il lago c'è una casettina. Piccolina, tanto carina, senza soffitto, senza cucina. Ma è una casa, entriamo. Perception. Perception. Sì, ascoltare soprattutto. 14. Lui ha... Ah no. Senti provenire dall'interno. Dai, e aveva vantaggio a udire. Avete sempre voluto togliere la maledizione. Senti no, dall'interno la voce di una donna che si lamenta. Questa non sembra una casa. Beh, è una donna, quindi si lamenta. Forse meglio dall'altra. Forse meglio dall'altra parte. Perché? Perché dentro c'è qualcuno. Beh, in ogni caso ci sarà qualcuno. No, hanno ucciso metà. Ti devo schiaffeggiare in faccia, evidentemente. Hanno ucciso metà della popolazione, cosa? No, e ciccio coso, non appena detto. Hanno ucciso metà della gli popolazione. Animali, Mongre. Sì. La prima volta che hanno depredato la città. Ma come gli animali? Sì. Hanno ucciso gli animali. Quello infatti, che potevano mangiare. Infatti Archie si era fermato a dare. Vabbè, che non hanno ammazzato le persone, scusa. No. Non avete visto, non lo sapete, non avete visto però dei cadaveri. Io delle, no, no, solo che avevano dimezzato la popolazione. No, no, solo siete voi. No, sono sempre stati noi in realtà. No, solo gli animali. Non sapete se sono state anche delle vittime, ma non avete visto dei cumuli di cadaveri. Ma scusa, qua è per lo più bosco in questa parte, no? Non possiamo accamparci lì. Vedono subito alle prime luci dell'alba. Cioè, anche prima in realtà, sì. Cioè non è un bosco fitto. Avevamo detto di entrare in una casa, aspettare una casa. Eh sì, però perché io avevo capito, io la costruzione della frase era stata, siccome metà della popolazione è stata uccisa, no, ci no, sono delle case libere. Non li uccidiamo, tranquillo. No, l'aveva detto Vanetta di prenderli come ostaggio fino alla mattina dopo. No, io non avevo capito, avevo capito che il discorso fosse, siccome ci sono delle case vuote. No, no. È impossibile, no, non ha detto, c'è una finestra da cui entrare. Io avevo capito che era. C'è una finestra. Ciale come questa, fai conto, con le scuri chiuse. Allora scusa, perché dovevano uccidere? Cioè le finestre hanno gli scuri chiusi. Io avevo capito tutt'altro, cioè, io avevo capito che avevano ammazzato metà della popolazione e quindi gli avevo detto attenti perché tornano. No, gli avevano depredato le case. Tu hai detto entrate Una casa poco... in una città distrutta, i cadaveri per le strade. Ha mangiato due galline. No, ha mangiato il bestiame che era tutto il bestiame, e gli hanno fatto dei gran danni alle case. No? Vabbè, ma se la vedo, vabbè, lascio perdere. Vabbè, sempre entriamo in questa casa. Ok. La porta è chiusa. Provi ad aprirla. Leggermente. Non è chiusa a chiave. Quindi se io spingo si apre. Se spingi si apre, sì. Scusa, ma se bussi non ci fingiamo. C'è la maniglia. Ma aspetta, ma questa casa com'è fatta? È una casa di legno. C'è un granaio. No, non c'è un granaio, c'è un gabinetto fuori, le latrine. Ma non è tipo. Non potete dormire. Non c'è tipo una stalla, una roba così. Qui no. Che basterebbe andare la rotata con la stalla, c'è per la stalla. Volendo sì. Sì. Cioè io sarei più per quello che per prendere in ostaggio le persone. Onestamente. Vabbè, però dormirei in un letto. Cosa avevamo sentito? Sentite. Ma è che la stalla magari ti entra uno all'improvviso, la casa. No, perché non sono animali. C'entra. Sì, lo stai la stalla a fare se non sono più animali. O minimo di di logica, che cosa ci sarà? Dai. Capito? Nella stalla non tengono solo gli animali, terranno anche degli attrezzi, cioè uno non usa più la stalla. Vabbè. Sono morti i nostri animali, non entrano più nella stalla. La mattina noi tagliamo. Sì, la mattina di tagliamo, fa mettiamo alla guardia, se arriva uno. Ci mettono alle 3 di mattina da prendere gli attrezzi e la paglia, in effetti dai. Cioè andiamo a dormire 8 ore, può essere che qualcuno entri. Vabbè, ma nel caso lo prendiamo. Quindi tanto vale essere sicuri che nessuno entrerà. Vabbè, comunque lui sta sbirciando dalla porta, giusto? Io dico aspetta. Non sto entrando ancora. Aspetta, cerchiamo magari una casa dove la stalla ci mettiamo lì, poi sta qualcuno faremo le guardie. Vabbè. Non diciamo incido. Una mia ora, 5 minuti, mi connetto al lupo per vedere. Ok. Va bene. Aspetta, in questa casa c'è una donna che sta... Una donna che si sta lamentando come se fosse... stia facendo qualcosa di doloroso, diciamo. Quindi senti potrebbe essere anche un'altra cosa, no, non è una cosa piacevole. Appoggiando l'orecchio senti la voce di un'altra donna che cerca di farle forza e di insomma di aiutarlo. Sta partendo. Certo, no, effettivamente per piacere, lasciatemi un minimo. È perfetto. Prende l'ostaggio una che sta partorendo. È perfetto. Ci sono delle altre case più avanti. Sì, ci sono delle altre case più avanti. C'è qualcuno con una stalla. È veramente troppo. Sì. Se volete, Esmeralda dice: nascondetevi qua e vado a perlustrare. Non perché dai fastidio a loro, perché questa si mette a urlare. Urlerebbe comunque, sta partorendo! ho capito, però aiuto, venite. Per piacere. Però sono ma cosa aiuto, venite? Non farlo corrompi! No, non è perché io. Ti metto, non dirà mai aiuto, venite. Secondo te? È già venuto! Secondo te grida aiuto, venite se minacci di ammazzare il figlio? Cosa fa? Non lo so. Ma poi al massimo capito. Poi al massimo non lo so, la butti al cane. Io sono per il discorso è che siamo qui per un agguato, quindi per fare più silenzio possibile. Esatto, cercare una cazzo di stalla, se vuoi arriva uno lì lo prendi. Andare da uno che sta partorendo, andare dove sta partorendo, ripeto, costa niente. Sfruttiamo il fatto che le stalle magari non saranno utilizzate in quanto. Cioè, premetto che la mia motivazione non è perché mi dà fastidio disturbare una che partorisce, non me ne frega un cazzo. È solo perché è importante specificarlo in questa compagnia che comunque sei disposto alla malvagità. Non sono malvagio io, però rapire per qualche ora una donna o cioè prendere in ostaggio solo per fare l'agguato poi o andare in una stalla a me non cambia molto. Regà, però non avete mai visto che uno entra e dice zitta, passiamo solo la notte. Fine, capito, magari questa è la moglie del capo delle guardie, siamo sfigati. Allora, Smeraldo dice posso andare in perlustrazione, voi che cosa fate? Sì, ho detto sì. E io dico agli altri, ragazzi, siamo fermi, adesso stiamo fermi. Va bene, allora, fatemi lo stealth di gruppo. C'è quattro sì, che nascondete dietro questa casa che sta proprio... Lui non è un guerriero della matura pesante. Lui è un guerriero nella natura pesante. Tutti tireremo con svantaggio, sì, dobbiamo farci in mezzo agli alberi, nel buio, dobbiamo fare uno stealth con una che sta partorendo. Certo, se volete nascondervi devi fare una prova di stealth. Siamo comunque dentro la città adesso, non siamo fuori città. Alla 18 ho fatto. con svantaggio. Perché svantaggio? Perché ho qualcosa alla prova. Cos'è? Ho il svantaggio alla prova. Sì, potrei dire, a questo punto potrei dire, mi tolgo l'armatura, faccio la prova e me la rimetto, però ci metti un po' lì e ci sono. Tu non hai armatura. Tu devi tirare normale. Vai. 15. Tu hai svantaggio, dai, io dovrei aver fatto farmi una storia 18 qua, ma è sempre io non sono sul minimo. Hai ragione, mi dimentico. Devono farlo i 12 personaggi che comandi tu. 12 che ha tirato due dadi? Svantaggio, anche lui è la prova. Ah, è l'armatura pesante tu, sì, è vero. 10-10. Devi tirare anche il gufo? No, il gufo no. Aspetta però. Alzerebbe forse la vita. Stealth su destrezza, io posso aggiungere metà proficiency. Grazie al coso, quindi due. Ho fatto 12-14. Perché aggiungere metà proficiency? Perché tutte le prove che richiedono forza o destrezza posso aggiungere se non metto già la atleta, proficiency. No? Come si chiama? Remarkable Athlete. Cos'è? Remarkable Athlete? È una cosa di classe del champion. Ah, ok. In pratica e posso fare anche dei salti lungo più lungo degli altri. Salti fossi per lui. Esatto. Quindi adesso cerchiamo una stalla. Sì, mandate Esmeralda in esplorazione e dice ho trovato una, come si chiama, dove stanno le galline? Un pollaio. Grazie. Non ci stiamo in un pollaio in otto. È un era un pollaio che ospitava molte galline, ma per qualche motivo. Tipo di quelli moderni che ospitano 200. No, perché anzi, a maggior ragione, essendo vecchio, per farci stare tante galline, saremmo un po' stretti, ma nessuno sospetterà. Sì, perché siamo sì, era pieno di attrezzi perché le galline erano le galline di galline in fuga, arrivo la casa, vabbè, che si è messo a verbale, vabbè, arrivo la casa, è perfetto andiamo lì, è perfetto per il gufo, la prossima volta si fa la casa, però è perfetto, andiamo lì. In realtà il gufo, se non è una roba che dà nell'occhio, lo farei girare. È perfetto, andiamo lì, e quando sono lì vai a pisare il tuo padrone, non mi potete parlare. No, però quando siamo lì dico al gufo, vai ad avvisare il tuo padrone. E provo a farlo volare. E gli do un pugno per sbaglio e lo uccido. Io quando mi connetto col gufo periodicamente vedo che hanno trovato un posto. Cerco. Non lo so, adesso vediamo. E lui a un certo punto si allontanerà. Ecco, mi scende. Adesso vediamo, certo, qual è il punto della pattuglia che va più vicino lì, la porta è chiusa, catturato, è un'altra pericolo. Va bene, queste mogre sono murati sulle mura, no, magari non le chiavi, magari sono in fondo al lago, adesso le chiavi ho più sei, hai capito, riesci a svicolarti, può essere che una chiave sia in fondo al lago, no, perché da una parte all'altra passano, quindi senza attirare l'attenzione, dopo che ha fatto un po' di giri di guardia, sì. Quindi riposiamo una notte per raggiungervi. Sì, riuscite a riposare la notte. Quindi recuperiamo al massimo la metà dei punti vita tirati. Dei cioè, dadi la, dei io recupero la magia. Sì. Esatto. Vabbè, se ne considero full vita perché non chiamo 8 punti feriti. Bene. Quindi io a livello 7 ne recuperiamo 3 o 4. Dovrebbero essere 3. Vabbè, sì, io li avevo usati. Vabbè, avete usato 3. Ah, 4. Vabbè, 4. Che ne manca uno. Io 3 ne manca. Va bene, ragazzi. Comincerei a tornare indietro. Cioè, una cosa che potevamo fare in 5 minuti, l'abbiamo fatto in 3 ore perché ho dovuto schiaffeggiare tutti i PNG possibili. Ci manca solo Casper che ci dice: eh no, però adesso. I tuoi piani sono un po' estremi. Per realtà no, catta, perché noi abbiamo fatto questa roba perché andiamo dentro, uccidiamo tutti. No, la cosa è stata andiamo alla vigna. No, la vigna è difficile, sarebbe meglio andare a Kretzk. Sì, ma Kretzk ci sono le mongre. Sì, però se dopo arriva il conte Strada, dico vabbè, andiamo a prenderci Kretzk. Arriviamo lì, sembrava tu fossi molto convinto di questa cosa. Dobbiamo entrare, abbiamo il vino apre tutte le porte, no, il vino non ci interessa, beh, qua, via, vabbè, c'è e va bene, praticamente poi, qui comanda strade e abbiamo il vino di strada. Ma dov'è il vino di strada? Però lui si è fatto vedere col simbolo dicendo che siamo di strada e che abbiamo portato il vino, loro perché che sono alleati di strada. Ah, però. Però loro che sono alleati di strati dicono non è vero, non aspettiamo nessuno. Fatto quindi era un po' comunque il vino che serviva per fare tutto non c'è aperto. Poi il coso fa possiamo andare, okay, entriamo e ammazzare le guardie. Ma dobbiamo prendere il controllo della città. Sì, per usare la violenza adesso per prendere il controllo della città. Come facciamo? Delle democratiche elezioni. Ma non cosa? Ti hanno detto queste cose. Cosa facciamo? Stai esagerando. E direi di sì. Va bene. Se volete sì. Se no. Io come sempre ci sono. Se no, va bene. Però a questo punto dovremmo avere Marco almeno Steve. Osnabrück. Tanto lui non cazzava a fare la sera. Vabbè, ci penserà. Se vuole. Tanto noi non andiamo da nessuna parte. Se no avremo un altro PNG che gira. Esatto. Da bug. Oh, peggio. Osnabrück, ci sei il menu? Sì. Vediamo, lo sai se non ci vengono. Direi di sì, no. Da che ora a che ora? Più o meno dalle 9, 9 e mezza fino a mezzanotte. Mezzanotte e mezza massimo. Sì, beh, poi se vuole andare via prima. Bene. Salutiamo i nostri fan. Grazie per averci seguito, forse. E anche i nostri nuovi fan. No? Vi diamo appuntamento con le prossime sessioni di Tycoons and Dragons. Non avevo condiviso su GDR, potrei condividerlo prima della fine di tutto. Vedete questi ultimi 10 minuti. Vabbè, rimane. Cosa ti serve? Ricordatemi di spandare. Perché non c'è. Cioè, vabbè, c'è anche una scheda di Arci ti serve? Non aveva tipo un foglio in più bianco. Degli incantesimi. Francesco, quando vi stia accettato il invito a mettere mi piace a Tycoons and Dragons. Oggi vi ho fatto ci ho fatto guadagnare dei mi piace, sì. Però devono anche followare. Sì, ma su ai tuoi amici roba che vedi. Ma loro molti hanno già messo mi piace, alcuni li ho invitati oggi, vediamo se lo fanno. Sì, penso che ci esci, gli prendi il cellulare e aggiungi. il contattore ti dà. Mi dà sempre. Sì, aveva. Mi piace 74 persone. Allora. I follower? Non lo so, adesso mi condividere questo. Condividi sulla pagina. Devo guardare per favore anche i follower. Comunque, grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento alle prossime sessioni di Tycoons e Dragons e Rapid DR. Lunedì 4 novembre. Sperando di aggiornare presto anche il podcast, così che mi pari. E sperando di avere di nuovo Marco, così da raddoppiare i bosi. Bosi al quadrato. Bosi al quadrato. E detto questo, Giulio, dacci un messaggio finale. Spero. In realtà questa cosa non può fare più spesso, se volete, una volta al mese. Ah no, un messaggio però importante. Solo, sì, weekend. Questa cosa intendi aggrigliata, no? No, infatti aggrigliata a trovarsi qua. No, poi possiamo non mangiare sempre aggrigliata. Messaggio importante per i nostri ascoltatori, grigliate le banane. Esatto. Perché sono droghe. Seguite lo stesso. No, si può fare anche la prossima volta con una pasta. Alla banana. Alla banana. Grigliata. Però grigliamo i kiwi, li ha portati. Grigliamo 8 kg di kiwi. Facciamoci un selfie di storia finale qui in verde. Non dovete aiutarmi. Catta. Questa è la storia. Con lui che guarda. Va bene. Sembra un po'. Ah, viene in verde tutto così. Bravo. Perché viene con questa sembra tutto dire. Vabbè. Va bene. Ciao. No, selezionare qualche oggetto particolare o le cose nuove? L'equipaggiamento base, poi se vuoi c'è il Monster Hunter Pack background.